Allora, vado veloce perché abbiamo dei tempi un pochino stretti. Maria Teresa Pintus deve ripartire per la Sardegna, la ringraziamo di essere venuta oggi apposta, un viaggio anche un pochino complicato, malgrado lei. Charlie Barnao ha a sua volta un impegno più tardi e in collegamento da Catanzaro, ringraziamo anche lui della sua disponibilità. Elton Calica, Calizza, ti posso chiamare Calizza, che qua è venuto da Padova, più automunito e quindi è un po' più tranquillo. Questo incontro si inserisce nella serie di iniziative a sostegno della lotta di Alfredo Cospito, di cui immagino tutti quanti saranno al corrente. La vicenda di Alfredo Cospito ha segnato una tappa importante in questi ultimi mesi, ha in qualche modo contribuito grandemente a riportare all'occhio di tutti la questione del carcere, e finalmente si è ricominciati a parlare di carcere, e non solo in termini cronacistici, ma anche, come dire, in termini di come dire, critica e discussione più concreta e reale. Contemporaneamente, per la specificità delle sue caratteristiche, della battaglia che Cospito sta conducendo oramai da quasi 160 giorni in sciopero della fame, con coraggio e generosità non immaginabili, ha imposto una doppio range temporale, l'utilizzo di un doppio range temporale, perché da una parte c'è un metronomo che corre veloce, che è il metronomo della sua vita e dei suoi tempi, mai avremmo potuto pensare di arrivare ad oggi, veramente. Noi, mi ricordo, abbiamo fatto un incontro in Conchetta la fine di novembre del 2022 e sembrava già che fossimo di fretta. Bene, e l'altro invece è quello che è sicuramente un tempo più lungo, che è quello che serve per sviluppare e portare a compimento un ragionamento articolato sul carcere all'interno della società, diciamo, del paese, in una critica, come dire, diffusa e così. In questo doppio range temporale, questo incontro, diciamo così, si colloca un po' a metà, nel senso che vorrebbe contenere l'urgenza della vicenda di Alfredo e contemporaneamente fornire degli alimenti di ricchezza e di informazione e di critiche, di controinformazione sui dispositivi carcerari che sono alla base della sua battaglia. Abbiamo scelto Archivio Primo Moroni, Callusca e Conchetta di fare questo incontro in una sala comunale e non in un centro sociale, perché riteniamo che sia in questo momento importante che queste questioni escano dai luoghi specifici in cui vengono affrontate abbastanza regolarmente e spesso, e si confrontino con un territorio più ampio. Benissimo, una brevissimo, ancora due parole per presentarvi i partecipanti a questo incontro. Il carcere lo conoscete tutti, è un luogo, la Bignardi due giorni fa alla presentazione della piattaforma Morire di Pena diceva brutto e inutile, è un luogo di sovraffollamento, è un luogo con una popolazione spesso giovane, povera, emarginata. Il carcere nasce come momento di recupero e di disciplinamento delle vagabondi che dalle campagne andavano nelle città al periodo dell'industrializzazione. Quest'anima non l'ha persa, ci sono molti immigrati. Il carcere è un luogo dove si soffre e si muore in silenzio. In carcere si muore di suicidi, in carcere si muore di botte, in carcere si muore, come è successo per i 13 detenuti delle rivolte del 2020, del marzo 2020, anche sotto le telecamere, senza che alla fine nessuno sembra che si accorga di nulla. In carcere si muore anche di suicidio, perché ci sono stati, l'ultimo è anche quello del 2021, mi pare, dei detenuti che hanno di suicidio, l'ho detto, di sciopero della fame. Ci sono dei detenuti che hanno intrapreso dello sciopero della fame e che nel silenzio di tutti hanno, sono stati lasciati morire. Il carcere, diciamo, in qualche modo si basa su due presupposti, valenghi entrambi. Il primo sarebbe che, facendo della violenza, io spero che il collegamento continui, che facendo della violenza e dell'umiliazione sulle persone, questo possa migliorarle in qualche misura. E il secondo presupposto è che in carcere uno possa essere rieducato a quel mondo che probabilmente è stata la ragione per cui lui in quel momento è lì. Cioè, il carcere è il luogo in cui non si mette nella maniera più assoluta in discussione la vicenda, la storia e le cause sociali che determinano la condizione che c'è. Bene, questo lo conoscete tutti. All'interno del carcere ci sono due dispositivi. Noi adesso ne ci occuperemo di due che costituiscono il nucleo della battaglia di Alfredo. Il 41 bis è l'ergastolo ostativo. Il 41 bis è un dispositivo, non è una pena, è un dispositivo dell'ordinamento penitenziario, che vuol dire che non viene imposto da un giudice, ma viene richiesto da un ministro e quindi dal potere esecutivo. Non è necessariamente corrispondente a una pena, tant'è che vi possono essere delle persone al 41 bis che non hanno avuto neanche il primo grado di condanna, non è necessario neanche essere condannati. Quindi, diciamo, secondo i principi della Costituzione, anche delle persone che sono presunte innocenti possono essere tenute. È un dispositivo fortemente vessatorio che ha una finalità esplicita di impedire i collegamenti con l'associazione di appartenenza. Di fatto ha un sacco di altre norme che in qualche modo si aggiungono e che con questa finalità non hanno di fatto nulla a che fare. Di questo immagino parleranno molto meglio loro, che sono più competenti. Aggiungerei però che dal 41 bis si può uscire intanto se si verificano le condizioni per cui l'associazione i contatti con l'associazione d'appartenenza non ci sono più per qualche motivo. Il secondo è se si decide di fare quella che si chiama una collaborazione attiva con la giustizia, ossia mandare in galera qualcuno, dare delle informazioni perché qualcuno possa andare in galera di fatto al posto proprio. L'ergastolo ostativo è una forma particolare di ergastolo. Nell'ergastolo sarebbe lungo, è una specie di tampone che è stato messo dopo l'abolizione della pena di morte, che in Italia l'ultima volta è avvenuta nel 48. Che cosa vuol dire ostativo? L'ergastolo, si dice, in realtà non c'è. In verità c'è, perché una persona, l'ergastolo è una condanna definitiva, cioè a vita. In realtà la norma prevede, per attenuare la forza e la durezza di questo provvedimento, che dopo un certo numero di anni un detenuto possa iniziare a godere di alcuni benefici che arrivano alla richiesta della semilibertà dopo 26 anni di detenzione. Per questa ragione forse qualcuno di voi ha sentito dire che in fondo in Italia il garsolo non esiste, perché dopo 20 anni o 25 anni una persona esce. Non è così, perché bisogna che questi benefici siano concessi. Per alcune categorie di reati questi benefici non possono essere concessi, quindi questo ergastolo diventa, e questo è quello che si chiama l'ergastolo ostativo, e per legge ha una forma detentiva a vita, diciamo, perenne. Non è possibile attenuarla in alcun modo. Di fatto, per correttezza, va detto che fino a novembre di quest'anno il governo ha leggermente attenuato questa cosa, perché questo dispositivo è fortemente criticato dalla comunità europea e dagli organi internazionali, perché naturalmente viola il principio della rieducazione, il reinserimento sociale, queste cose qua, ed è stato leggermente attenuato, però in una maniera proprio irrisoria, e forse l'hanno addirittura peggiorata. Beh, hanno portato a 30 anni, sì, hanno portato a 30 anni anche per chi non, non sì, certo, certo, sì, e diciamo, possiamo dire che è peggiorato, perfetto, lo diciamolo, allora, perfetto. Dall'8 marzo. Perfetto, benissimo. L'8 marzo, sì, adesso c'è stata la sentenza della Corte di Cassazione che l'8 marzo c'è stata la sentenza della Corte di Cassazione che doveva appunto insomma decidere se il rinvio che era stato fatto da parte della Consulta a novembre, cioè sul fatto che dovesse essere riformata quella che è la norma principale dello statività, cioè l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, siccome è stata riformata, o meglio, si è stata modificata in peggio, perché ci sono comunque dei paletti molto più alti, quindi degli ostacoli molto più alti da dover superare per poter poi accedere quindi ai benefici, quindi la Corte di Cassazione l'8 marzo ha comunque dichiarato che va bene così come è stata riformulata la norma, e quindi è peggiorata. Assolutamente, perché il 4 bis è stato modificato, è stato diciamo aggravato. Ecco, perfetto, quindi qua siamo ancora, vedete, perfetto. Va bene, mi taccio, quindi. Allora passerei la parola a Charlie Barnau, che è quello che ha i tempi più stretti. Va bene, allora loro li presento. Lui lavora all'Università di Catanzaro, ha scritto, lavora, insegna in carcere, ha scritto dei libri, ha pubblicato dei libri con dei detenuti che sono stati al 41 bis, ha fatto già a Milano con noi un bellissimo lavoro sulla tortura, che è uno dei suoi binari di ricerca, e dovrebbe in qualche modo in questa sede coniugare le due cose. Maria Teresa Pintus è avvocatessa del Foro di Sassari, l'avvocatessa del 41 bis, si può dire, perché ha una certa specializzazione, è stata ed è l'avvocatessa anche di Cospito a Sassari, è stata a Bancali e comunque ha diversi detenuti che stanno là. E Elton Calizza è all'Università di Padova, ha fatto un'inchiesta all'interno del carcere tra i detenuti in alta sicurezza, direi, e ha fatto ex 41, e ha fatto un libro, ha pubblicato recentemente un gran bel libro sul diritto penale del nemico, un concetto di cui non ho fatto parola e che spero che spieghi lui bene. Allora Charlie, tocca a te. Sì. Mi sentite? Parto? Sì. Bene, allora, buon pomeriggio a tutti, grazie mille per l'invito, grazie all'Archivio Primo Moroni, a Calusca, a Conchetta. Mi scuso per non essere presente, ma appunto, come è stato anticipato, è un incontro oggi pomeriggio proprio su queste stesse tematiche, a Catanzaro, un impegno che avevo preso già in precedenza. Io partirei da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta che avevamo parlato insieme, è stato circa un anno e mezzo fa, quando appunto a Conchetta avevo presentato i principali risultati di una ricerca che sto conducendo da alcuni anni, che mette in evidenza come esiste una correlazione tra l'addestramento militare e anche quello della polizia e le forme di violenza estrema e sadismo che sono perpetrate da coloro che sono addestrati sulla base di quel modello addestrativo. Quella ricerca che sto continuando a portare avanti è una ricerca che mette in collegamento, diciamo così, la guerra e la militarizzazione, la cultura della militarizzazione ad essa collegata al populismo penale, che è strettamente connesso con, oggi lo sappiamo sempre meglio e ci accorgiamo tutti i giorni, con il 41 bis. Quindi c'è questo filo conduttore che unisce da una parte la cultura della guerra e dall'altra parte la cultura che sta alla base, l'idea di utilizzare il diritto penale per punire alcune categorie ben precise di persone, questo ai fini di consenso. Tutto questo discorso lo possiamo inquadrare in un processo generale di militarizzazione della nostra società, quello che Alessandro Dall'Ago chiama il processo di doppia conversione. Questo collegamento tra guerra e dispositivi disciplinari legati al nostro regime penitenziario è particolarmente evidente, appunto, quando si va a studiare il nostro sistema penitenziario. Oggi presento in estrema sintesi alcuni risultati di un'indagine che sto conducendo e che è in corso di pubblicazione. Presenterò, diciamo così, più scientificamente i risultati di questa ricerca, credo che la prima volta sarà proprio a Trento, a giugno, e in quell'occasione credo che ci vedremo anche con Elton Caliza, che saluto. Oggetto della mia ricerca sono le pratiche di risocializzazione predisposte dall'istituzione penitenziaria italiana nel corso del regime di detenzione. Si tratta di un lavoro sostanzialmente, principalmente etnografico, che si divide in due parti. In una prima parte mi occupo del carcere che tortura, nel senso che vado a indagare delle singole acclarate azioni di tortura che sono perpetrate nelle carceri italiane da danni dei detenuti, e qui si va dai tempi del carcere speciale, quindi quello legato alla lotta armata degli anni 70-80, per arrivare a Pianosa, per arrivare ai fatti di Santa Maria di Capovetere, ovviamente passando anche per Bolzaneto, fino alla proposta di legge di Fratelli d'Italia di questi ultimi giorni per cancellare il reato di tortura, che non fanno altro che dare ulteriori elementi, diciamo così, di corroborazione empirica della tesi secondo la quale, dell'ipotesi secondo la quale, nelle nostre carceri regolarmente vengono perpetrate singole azioni di tortura. La seconda parte della ricerca invece fa riferimento più alla tortura come processo. Infatti, in questa seconda parte di ricerca, attraverso l'analisi di alcuni dispositivi disciplinari particolarmente duri e anche più formalizzati da un punto di vista normativo di altri, e che sono quelli proprio di cui ci occupiamo oggi, cioè il 41 bis e l'ergastolo più o meno ostativo, metto in evidenza come la tortura all'interno delle carceri non sia un evento occasionale, ma piuttosto si tratta di una pratica strutturata, ben formalizzata all'interno di un generale percorso trattamentale, il quale è esso stesso una forma ben precisa e normata di tortura. Come ho già anticipato, il metodo di questa ricerca è un metodo etnografico, quindi ricerca qualitativa sostanzialmente, è un metodo praticamente indispensabile ed è legato un po' per il tipo di oggetto di ricerca. Ricordiamoci, lo sappiamo tutti benissimo, di un'istituzione totale, forse la più totale di tutte, e quindi un'istituzione che per definizione si chiude rispetto all'esterno. È difficilissimo, come tutti sappiamo, avere informazioni su quello che accade all'interno del carcere. Personalmente, diciamo così, ho iniziato un periodo di osservazione partecipante ormai da diversi anni all'interno del carcere, che inizia con la mia attività didattica. Io sono un docente universitario, dal 2017 insegno in alta sicurezza, peraltro negli ultimi anni ricopro ancora oggi il ruolo di delegato del rettore della mia università per l'insegnamento universitario in carcere, e quindi periodicamente ho la possibilità di accedere in particolare al carcere di Catanzaro, che ha una sezione appunto di alta sicurezza, all'interno della quale ormai negli ultimi anni conduco settimanalmente, alcuni periodi quotidianamente, delle lezioni a tutto un gruppo abbastanza nutrito di detenuti dell'alta sicurezza. Ad oggi sono circa 20 i detenuti che seguono le mie lezioni, e abbiamo anche attivato da qualche mese un laboratorio autoetnografico, il quale ha già prodotto i primi risultati, sono stati prima ricordati alle prime pubblicazioni. Il primo laureato in sociologia dell'alta sicurezza di Catanzaro, dell'alta sicurezza di Catanzaro, si chiama Salvatore Curatolo, un detenuto che attualmente da 30 anni interrotti all'interno delle carceri italiane, condannato all'ergastolo ostativo per reati di mafia, e ha anche fatto 12 anni di 41 bis. Il suo libro è uscito da poco, un'autoetnografia proprio sulle strategie di sopravvivenza in carcere. È in corso di pubblicazione un secondo lavoro di un altro detenuto, già dei casalesi, che da circa 23 anni ininterrotti in carcere, il quale si è occupato di studiare le strategie, i processi di risocializzazione carcerari a confronto di quelli legati all'accesso e alla permanenza all'interno del plan. Questi lavori, insieme con altri che sono in corso di pubblicazione, sono i primissimi risultati di quello che può essere un vero e proprio lavoro, diciamo così, di ricerca all'interno delle carceri, in cui si è creato un gruppo misto, possiamo dire, composto sia da docenti, da ricercatori e soprattutto da detenuti. L'altro strumento di indagine per questa mia ricerca è ovviamente l'analisi qualitativa dei testi. Bisogna aiutarsi con quello che c'è a disposizione, i dati non sono tantissimi rispetto al carcere. Per quanto riguarda il periodo legato al carcere speciale, noi abbiamo tutta una serie di testimonianze importantissime, abbiamo tutto il lavoro di sensibilità alle foglie, lo straordinario lavoro di Marita Prete di documentazione, che diciamo così, ha messo in chiaro e ha raccolto tutta una serie di testimonianze importantissime che mettono in evidenza tutta una serie di torture che già dai tempi appunto del carcere speciale venivano perpetrate. Ricordiamo anche i lavori di Nicola Valentino, eccetera. Tutto quel periodo, diciamo così, è molto ben coperto per quanto riguarda testimonianze che possiamo definire etnografiche, perché probabilmente i detenuti che venivano reclusi e sottoposti a quel tipo di detenzione, un po' per basi culturali, un po' per livello di istruzione, per tante ragioni, hanno scritto, hanno documentato, hanno denunciato, hanno raccontato all'esterno quello che è successo negli anni 70, negli anni 80. Molto più problematico è l'area di informazione, ovviamente, rispetto a quello che succede in continuità, potremmo dire, perché il dispositivo disciplinare è sostanzialmente, quello del 41 bis, è un'evoluzione, uno sviluppo degli dispositivi disciplinari più duri, quelli legati al carcere duro degli anni 70-80. Molto più problematico è avere informazioni su quanto accade oggi, perché la popolazione carceraria che viene sottoposta a questo tipo di detenzione è una popolazione diversa. Si tratta quasi esclusivamente, come sappiamo, di persone appunto legate alle organizzazioni mafiose, quindi forse proprio anche una cultura diversa di base, il livello di istruzione è più basso. Salvatore Curatolo, che ha raccontato nel suo libro, nella sua tesi di laurea, le sue strategie di sopravvivenza in carcere, ha preso la quinta elementare in carcere, quindi spesso hanno proprio difficoltà di raccontarsi anche per ragioni legate all'istruzione, ed è per questa ragione che non sono tantissime le testimonianze diciamo, pubblicate e che sono utilizzabili per sapere cosa davvero succede in questi anni, all'interno di questi dispositivi disciplinari, a partire, per capirci, dalle stragi di mafia in poi, e quindi con vero e proprio 41 bis di cui stiamo parlando, e con riferimento anche all'ergastolo ostativo. Ricordo comunque ci sono le importanti testimonianze di Claudio Conte, di Carmelo Musumeci, il lavoro di Elton Calizza, che seppur non direttamente ha vissuto il 41 bis, ha raccolto le testimonianze di persone che erano state al 41 bis, il lavoro di Salvatore Curato, di Alessio Attanasio, di Rosario Indericato. A questo materiale, diciamo così, che viene analizzato qualitativamente, ovviamente ho aggiunto altro materiale scritto, al di là appunto di tutto il materiale giuridico, giudiziario disponibile, circolari del DAP e quant'altro, un discorso fondamentale, un aspetto fondamentale per la mia ricerca, hanno i manuali di tortura della CIA. I manuali di tortura della CIA sono dei manuali che sono stati pubblicati, resi pubblici alla fine degli anni 90, nelle loro varie evoluzioni. Il primo manuale, quello diciamo, più famoso, da cui poi sono generati tutti gli altri, è il Kubark Manual del 1963, ma c'è tutta una documentazione importante rispetto all'evoluzione di questo manuale del 1983, che ha riguardato appunto l'America Latina, in particolare la diffusione dell'America Latina, ma anche tutta una serie di altri documenti ad essi connessi. Questi manuali sono importanti perché formalizzano in modo chiaro, inequivocabile, le nuove forme aggiornate, se vogliamo, di tortura all'interno dei paesi, di un paese considerato democratico. Noi, chi studia questo fenomeno sa benissimo che la tortura è presente in tutti i paesi, compresi quelli democratici, ma una formalizzazione così chiara da un punto di vista antropologico, proprio dei processi, delle tecniche che vengono utilizzate per la tortura, ovviamente parliamo della tortura militare, quella cioè finalizzata all'ottenimento di informazioni e o alla distruzione dell'identità, alla distruzione della personalità del nemico, una formalizzazione così chiara è presente solo in questi manuali. Le proposizioni generali che iniziano a emergere, che sono emerse dalla mia ricerca, parto dalla prima, quindi esiste un filo rosso che unisce la guerra e il militarismo che la sostiene, la strutturazione del nostro modello penitenziario. Noi sappiamo che questo è un collegamento fortissimo tra guerra e populismo penale, attività interna di repressione e di punizione, utilizzando la tortura parte da lontano, ma appunto la conoscenza più esplicita e più chiara di questo fenomeno è avvenuta in questo rapporto anche del coinvolgimento degli scienziati sociali, dagli scienziati, ma anche dei giuristi, fino ad arrivare agli psicologi, agli antropologi, in questo collegamento tra guerra e repressione interna utilizzando la tortura. È un collegamento che parte da lontano, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma che si è evidenziato in modo più chiaro soprattutto dopo lo shock dell'11 settembre. Quello è un momento di cambiamento, cambia il paradigma e diventa particolarmente visibile quello che già succedeva da anni in precedenza. I giuristi creano a tavolino, e questo credo appunto Elton parlerà anche, immagino, di questo, cioè proprio del tema del diritto penale del nemico. Addirittura si iniziano a utilizzare delle norme che all'interno del paese, che sono norme di guerra, ma nel caso degli Stati Uniti si supera addirittura il diritto penale del nemico, che comunque dovrebbe ricevere, diciamo così, una protezione legata al diritto internazionale, creando a tavolino la categoria, questo appunto lo fanno i giuristi di Bush, la categoria del nemico combattente illegale, in modo tale che si possa anche utilizzare la tortura, che sarebbe invece vietata dalle convenzioni internazionali, nei confronti dei terroristi. Vengono utilizzati sempre di più, come dicevo prima, gli scienziati sociali. Questa è una pratica che parte già dalla Seconda Guerra Mondiale, ma che si incrementa sempre di più, tanto che tutte le ultime forme di guerra, secondo alcuni esperti del tema, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, che ancora era una guerra, diciamo, condotta dai fisici, tutte le forme di guerra successive diventano le forme di guerra principalmente condotte dagli scienziati adulti e dagli scienziati sociali. In questo senso la psicologia e l'antropologia, che stanno alla base della stesura e delle evoluzioni di questi manuali di tortura della CIA, sono probabilmente le discipline che la fanno da padrone. Parentesi, c'è un collegamento, come già avevo messo in evidenza la volta precedente, tra i modelli addestrativi militari e la microfisica della tortura, appunto così rappresentata in questi manuali. Esistono delle fasi ben precise, individuate in questi manuali di tortura, dei processi di azzeramento inizialmente, di transizione successivamente, di manipolazione finale, di aggregazione per ottenere informazioni, che sono ben formalizzati. Esiste un modello interazionale che si deve sviluppare tra colui che viene interrogato, torturato, e colui che interroga. Il modello psicologico di base è un modello, diciamo così, radicalmente comportamentista, che nelle sue forme più attualizzate di tortura va a toccare la psicologia della cosiddetta learned helplessness e tutta quella psicologia che studia la depressione. Però la vedo velocemente, casomai poi se ci sarà spazio per un dibattito, se avremo tempo posso approfondire. Ma il tema importante rispetto allo studio dell'evoluzione delle forme di tortura sempre più aggiornate, che vengono espresse, manifestate in questi manuali, con il contributo di accademici importantissimi, soprattutto degli Stati Uniti, è l'introduzione sempre più forte e sempre più evidentemente efficace di nuove forme di tortura, che siano forme di tortura non più basate sulla violenza fisica, quella tradizionale, ma su nuove forme di tortura che siano torture senza contatto, quindi passando attraverso le forme di tortura che cercavano di lasciare meno segni possibili, non so, l'utilizzo dell'acqua, il waterboarding, l'utilizzo dell'elettricità, si arriva alle nuovissime forme di tortura, quelle più aggiornate, che sono molto più efficaci secondo chi le sostiene, secondo questi manuali stessi, che prevedono due principi fondamentali: la deprivazione sensoriale e il dolore autoinflitto. Questi sono due principi cardine che sono al centro di tutte le nuove forme di tortura, che hanno ben poco ovviamente in comune con il dolore fisico causato dalla tortura convenzionale, e infatti questi metodi, che possiamo dire moderni, aggiornati, anche se il primo manuale che li ha proposti è quello appunto il Kubark, che già dal 1963, Questi metodi moderni possono, senza alcuna violenza fisica, provocare quello che gli esperti appunto dicono essere la disintegrazione vera e propria della personalità di un individuo, lo sconvolgimento del suo equilibrio mentale, psicologico e infine la distruzione proprio della sua volontà. Deprivazione sensoriale e sofferenza auto-inflitta. La deprivazione sensoriale della CIA si è evoluta in un assalto totale, possiamo dire, ai sensi, alle percezioni, di vario tipo, quelle uditive, visive, ovviamente tattili, temporali, legate alla temperatura, alla sessualità e anche con collegamenti appunto alla cultura. In questo senso entrano in ballo in modo predominante gli antropologi culturali. Raffinato in tantissimi anni di pratica, questo metodo si basa alla fine su procedure anche abbastanza semplici, e per certi versi possono essere considerate banali. L'isolamento è alla base di queste forme di tortura, il rimanere in piedi per lungo tempo, le stress position, queste sono strettamente collegate alla sofferenza autoinflitta, al principio della sofferenza autoinflitta, il caldo e il freddo, la luce e il buio, il rumore e il silenzio. Il tutto finalizzato a una definizione sistematica delle capacità sensoriali umane. La fusione di queste tecniche di deprivazione e disorientamento sensoriale con il dolore autoinflitto crea una combinazione tra il trauma fisico, possiamo dire, quello psicologico, che mina alle basi la stessa identità personale. Queste tecniche sono già in atto e utilizzate, come dicevo prima, già a partire dagli anni 50-60, sono state perfezionate durante la Guerra Fredda, ma probabilmente la loro massima notorietà in una situazione che è divenuta pubblica e conosciuta è arrivata con le torture perpetrate dall'esercito britannico nei confronti dei militanti dell'IRA. Siamo parlando del 1971, si parla delle famose cinque tecniche, che sono il wall standing, che appunto è legato alla sofferenza autoinflitta perché riguarda una particolare posizione stressante, l'incappucciamento, e quindi anche la deprivazione sensoriale, l'assoggettamento al rumore, la privazione del sonno, fino alla privazione del cibo e dell'acqua. Gli studiosi, gli esperti, gli psichiatri, gli psicologi appunto ci dicono che l'effetto dell'isolamento sulle funzioni cerebrali del prigioniero è molto simile a ciò che succede quando viene picchiato, affamato o privato del sonno. Sono tantissimi gli studi che possono essere citati, che sono stati super corroborati dalla comunità scientifica, che mettono in evidenza gli effetti devastanti dell'utilizzo di queste tecniche. Mi viene in mente uno dei più famosi, già uno studio di Harvard già della fine degli anni 50, appunto per mettere in evidenza come la deprivazione degli stimoli sensoriali induce stress, lo stress diventa insopportabile per la maggior parte dei soggetti, il soggetto ha un bisogno crescente di stimoli fisici e sociali, alcuni soggetti in conseguenza di tutto ciò perdono progressivamente il contatto con la realtà, si chiudono in se stessi e soffrono di deliri, allucinazioni e altri effetti patologici particolarmente gravi. Parliamo di esperimenti che sono stati condotti in poche ore o pochi giorni, che hanno prodotto allucinazioni, deliri, depressione, gravi effetti patologici, che a volte sono diventati cronici di vario genere. A questo punto ci potremmo chiedere cosa succede quando questi processi di deprivazione sensoriale e di dolore autoinflitto, anche se in forma, in singole azioni che potremmo definire tra virgolette più attenuate, cosa succede quando questi processi di deprivazione sensoriale di dolore autoinflitto invece durano per anni o per tutta la vita. Ed è quello che succede nelle nostre carceri. Infatti, forse per rispondere a questa domanda basta guardare il dato che è stato anche prima già anticipato dei suicidi nelle nostre carceri, ma non solo dei detenuti, anche di coloro che vivono in quell'ambiente che possiamo definire tossico. Cioè, se la percentuale, il tasso dei suicidi dei detenuti, che non è facilmente quantificabile, comunque le stime vanno dalle più restrittive, credo che siano dalle 13 alle 30 volte superiori rispetto a ciò che accade all'esterno. Appunto è un tasso enorme, altrettanto grande, anche se pure qui è difficilissimo avere informazioni, è il tasso dei suicidi e delle patologie psicologico-psichiatriche degli agenti di polizia che lavorano in quelle stesse, gli stessi ambienti. La tortura, e qui viene la seconda proposizione generale che sta emergendo dal mio lavoro, all'interno delle nostre carceri, quindi non è un evento occasionale, ma possiamo considerarla una pratica strutturata all'interno di un generale percorso trattamentale. È chiaro che quando parlo di tortura faccio riferimento alla definizione di tortura che viene data da questi manuali che ne raccontano le fasi che deve attraversare qualunque forma di tortura, che ne raccontano i processi che ne stanno alla base, che ne raccontano le dinamiche interazionali che si devono instaurare tra torturatore e torturato, il tutto finalizzato a un processo di infantilizzazione dell'altro e di deprivazione del sé, che è appunto ben conosciuto all'interno delle nostre carceri, sulla base di un modello psicologico appunto legato al comportamentismo estremo. Le tecniche sono quelle appunto raccontate sempre in questi manuali, quindi se l'umiliazione sta alla base, umiliazione sessuale ancora di più, e anche su questo, diciamo così, la vita quotidiana di chi vive il carcere è profondamente intrisa di queste continue forme di umiliazione, che ovviamente sono tanto più estreme quanto più rigido e totale il dispositivo al quale si è sottoposti. La deprivazione sensoriale, anch'essa sta alla base, è una delle tecniche che abbiamo già detto di base di queste forme di tortura, la sofferenza autoinflitta. Tutto questo è ampiamente presente nella vita quotidiana dei nostri detenuti, e tutto ciò emerge chiaramente da tutti i documenti che appunto descrivono l'attività e la vita all'interno del carcere, così come l'osservazione partecipante di chi ha la possibilità di vedere, diciamo così, di prima mano la vita quotidiana all'interno delle carceri. In questo contesto le forme più estreme e strutturate di queste forme di tortura, le forme più estreme e strutturate di trattamento penitenziario torturativo, possiamo dire, sono il 41 bis e l'ergastolo più o meno ostativo, che, come abbiamo già detto, sono nulla di nuovo anche queste all'orizzonte, perché sono delle forme potremmo dire evolutive, poi bisogna vedere dai punti di vista di quello che era il carcere appunto del duro, le carceri speciali degli anni 70-80, che trovano appunto in questi due dispositivi una formalizzazione giuridica Beh, chiarissima da questo punto di vista, pensiamo appunto all'ordinamento penitenziario, alla circolare sul 41 bis, ma hanno anche una formalizzazione molto chiara nei processi di interazione quotidiana, nelle pratiche cosiddette rieducative all'interno delle nostre carceri, a partire già, se vogliamo, dall'arredamento delle celle, dalle regole che bisogna seguire al 41 bis, dall'architettura stessa, dalla difficoltà di avere, diciamo, accesso ad alcune sensazioni, e quindi ad un ambito sensoriale che viene quasi totalmente deprivato in quei contesti. Di queste due forme, credo che il 41, cioè 41 bis e ergastolo più o meno ostativo, credo che svolgano tutte e due le funzioni, possano svolgere tutte e due le funzioni principali della tortura militare, cioè quella del tentativo dell'ottenimento delle informazioni e/o della distruzione del nemico. Credo che il 41 bis sia, per come si manifesta, più legato alla distruzione del nemico, anche se poi serve anche, o viene spesso spacciato come tale, come utile per ottenere informazioni, mentre l'ergastolo, appunto, più o meno ostativo, sia più chiaramente finalizzato a ottenimento delle informazioni, quindi il cosiddetto pentimento, la collaborazione. Chiudo il mio intervento con un dubbio e una certezza. Il dubbio è un indubbio che mi inizio a porre sempre più negli ultimi mesi di ricerca, e posso dire che mi si è insinuato quando ho iniziato a visionare i pochi video relativi agli effetti devastanti del 41 bis su detenuti. Non ce ne sono tanti che video di questo tipo, però mi è capitato di avere sotto mano e di visionare uno degli ultimi video relativi alla reclusione di Bernardo Provenzano. È un video che riguarda un periodo immediatamente successivo a quello in cui alcuni osservatori esperti avevano ipotizzato una possibile collaborazione, che poi però, di Provenzano, che poi però non si sarebbe verificata. In questo video lo potete trovare facilmente su YouTube, perché non l'avreste visto. Provenzano è a colloquio con i familiari, è al 41 bis, è separato da un vetro, e per comunicare con i familiari deve prendere la cornetta del telefono. E non riesce a trovare in mano la cornetta del telefono, non riesce neanche a capire qual è il verso in cui deve tenere la cornetta. È il video sostanzialmente di un vecchio malato in fin di vita, devastato da problematiche neurologiche, probabilmente anche psichiatriche, che non riesce a parlare neanche a tenere il verso giusto della cornetta per comunicare con i suoi familiari, tanto che si sente appunto la voce penso che sia di suo figlio, no? Che dice: "Papà, aggira la cornetta", e lui che non lo capisce, non sa come si deve parlare, come si può parlare al telefono. E mi chiedo perché, mi sono chiesto, perché accanirsi così con un vecchio malato, totalmente incapace? Dove sono le ragioni di sicurezza di una persona che è ridotta come una larva in queste condizioni? Cioè, è possibile che, oltre a coloro che vogliono punire a tutti i costi, di coloro che credono che il 41 bis sia l'unico modo per separare i detenuti dall'esterno, di coloro che, magari per ignoranza, non si rendono conto degli effetti devastanti del 41 bis, di coloro che lo vogliono anche utilizzare per indurre il detenuto a collaborare, è possibile che, oltre a tutti questi, ci sia anche un'altra motivazione in alcuni casi? Cioè quella di utilizzare il 41 bis per ridurre al silenzio, per distruggere psicologicamente, per non rendere mai più credibili coloro, in particolare i mafiosi, che magari prima o poi potrebbero decidere di parlare. Questo è un dubbio che, confesso, più vado avanti e più diventa forte. Chiudo davvero invece con una certezza: quali che siano le motivazioni di coloro che sostengono il 41 bis, quindi ignoranza, populismo penale, che in Italia sappiamo va dall'estrema destra all'estrema sinistra, o sinistri, la paura che i mafiosi inizino a parlare, al di là di tutte queste diverse motivazioni, estrema, aggiornata e particolarmente disumana di tortura. Grazie. Io spero che tu ci senta. Noi abbiamo qua dei problemi di connessione e quindi io mi sento. Ecco, il video va e viene. Allora, intanto grazie per. Dunque, i detenuti al 41 bis sono intorno ai 750. Antigone, che purtroppo era prevista venire, qualcuno di loro non li vedo, ma avevano detto che avrebbero avuto difficoltà proprio per questa politica dei due tempi di cui parlavo all'inizio, perché erano in giro in altri posti questa mattina e non erano sicuri di esserci qua oggi, dava dei dati per cui l'età media è intorno ai 60 anni. 10 giorni fa un detenuto al 41 bis, un mafioso, è morto al 41 a 83 anni. Un compagno infermiere che lavora a San Paolo, che ha un reparto nei carci, occupa del carcere di Opera di Milano, dice che si sta ponendo un problema di medici geriatrici all'interno del 41 bis. Quindi, e queste sono persone non solo di una certa età, ma sono persone di una certa età che hanno passato 20 o 30 anni in queste condizioni. Quindi diciamo il quadro è questo. Volevo aggiungere una cosa rispetto alla storia del 41, che non viene tante volte citata, che nella formulazione attuale è del 92, cioè la storia del 41 bis, come giustamente ricordava Charlie, viene da prima, la storia del carcere speciale che poi viene inserito nell'ordinamento in 80, l'articolo 90, che poi viene inserito, questo magari poi l'avvocato Pintus lo spiega bene, non so. Nel 92 però, a seguito alle stragi a Capaci e via D'Amelio, è stato modificato il 41 bis in modo da poter includere anche di alcune categorie di detenuti che erano quelli di mafia, e diventa quello che è oggi, cioè con la finalità di vietare la comunicazione. Prima mi pare che fosse soprattutto riferito alla pericolosità associata delle rivolte interne. Nel 92 l'introduzione del 41 bis in realtà, o oltre a, permette l'inizio di anni di tortura fisica costituita da pestaggi, umiliazioni, vessazioni quotidiane nei bracci del 41, in particolare la grippa pianosa e la asinara ai fornelli, anche questi che non hanno lasciato praticamente alcuna traccia. Una inchiesta era iniziata, l'allora onorevole Tiziana Maiolo era l'unica forse parlamentare che era riuscita ad andare a vedere, ci sono delle memorie scritte di detenuti che sono vissuti là dentro, e quindi questa cosa qua, nella genesi e nella parte della lotta, quella che è la lotta alla mafia, quindi con questo nemico totale, è atroce, no? Cioè copre un pezzo particolarmente atroce. Basta, passo la parola a Teresa Pintus. Il microfono. Cioè, grazie. Quindi vado io. Sì. Allora, buon pomeriggio a tutti. Sì. Così? Ci siamo? Sì. Così io non tocco niente. Sì. Intanto grazie mille per l'invito. Spero di essere in grado di essere anche chiara, e soprattutto spero che mi interrompiate nel momento in cui magari sono un po' troppo tecnica, perché magari tendo ad esserlo ogni tanto, e che eventualmente comunque interveniate anche per interloquire su qualche dubbio o qualche perplessità. Io intanto vi dico che tutte le volte che comunque vengo invitata a discutere del regime 41 bis parto sempre da quella che è la nostra carta costituzionale, sarà un mio difetto, però questo è, ovvero appunto la Costituzione della Repubblica, ma più che altro perché è necessario che capiamo di che cosa stiamo parlando, prima poi di addentrarci eventualmente a quello che è effettivamente il regime del 41, perché una norma fondamentale, che è l'articolo 27 al terzo comma, dice proprio che, e lo leggo, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. E poi ovviamente devono tendere a quella che è la rieducazione. Quindi se noi partiamo da questo presupposto, che appunto le pene, noi in questo caso dobbiamo parlare ovviamente di una pena detentiva, che è la pena massima, cioè l'estrema ratio depunitiva ovviamente dello Stato, però se le pene non devono essere contro l'umanità, in questo caso noi non possiamo non considerare il regime del 41 bis contro invece l'umanità. ovviamente mi assumo tutte le responsabilità quando parlo diciamo male di questo regime, però così è. Quindi se già abbiamo questa norma che comunque risulta violata, noi possiamo appunto dire come mai invece il 41 bis continua ad essere considerato da parte di, ovviamente, dello Stato in primis, ma soprattutto della Corte Costituzionale, come invece un regime che è costituzionalmente legittimo. Questa è una bella domanda, perché in realtà effettivamente, io ve l'ho già detto, una norma comunque la viola, ma non è l'unica norma che viene violata, vengono violate varie norme che sono tutte alla base della nostra prima parte della Costituzione. La nostra prima parte della Costituzione parla di quelli che sono i nostri diritti fondamentali. Se noi siamo uno Stato dei diritti, e se la prima parte della Costituzione prevede appunto tutta una serie di diritti, e proprio questi invece vengono violati da altre norme che vengono emanate da parte dello Stato, effettivamente qualcosa non funziona. Quindi poi ovviamente vi dirò esattamente quali sono, secondo me, ma non è proprio solo secondo me, i diritti che vengono violati con questo articolo 41 bis, però parto da un presupposto. Intanto la prima cosa che devo dirvi è che ovviamente qui dobbiamo ringraziare, a prescindere da tutto, Alfredo, giusto perché si parla di 41 bis, non che non se ne parlasse, perché devo essere sincera, io da quando comunque insomma frequento, come termine tecnico, sia i reparti del 41 in tutta Italia che appunto i signori che sono reclusi all'interno del 41, comunque ho fatto vari convegni, insomma vari incontri su questo tema, però nessuno ne parla. Ma soprattutto perché è un tema troppo spinoso, e in tutte le riforme che vengono toccate, come quella adesso anche del 4 bis di cui stava parlando poco fa il nostro moderatore, che non mi ricordo il nome, però non me ne vorrà ovviamente, anche per la riforma dell'articolo 4 bis, quindi dell'ostatività, la prima cosa che è stata detta: benissimo, se vogliamo modificarlo, modifichiamo l'ostatività, però non tocchiamo il 41 bis, tant'è vero che in quella norma c'è proprio scritto che non si applica tutti quegli ostacoli che bisogna superare per poter avere invece i benefici, non possono essere applicati a coloro che hanno appunto in applicazione invece, o anzi sono sottoposti al regime del 41 bis. Quindi il 41 bis è un argomento tabù, che ci piaccia o non ci piaccia, ma non dalla destra, dalla sinistra, dal centro, da chiunque, tant'è vero che non se ne parla, o meglio, quando se ne parla male, e se ne parla a sproposito e soprattutto senza cognizione, non me ne vogliate. Nell'ultimo periodo appunto, cioè da 5 mesi a questa parte, di più ormai, nel momento in cui insomma è stato comunque applicato il regime ad Alfredo, comunque quantomeno dal 20 ottobre del 2022, cioè dalla data d'inizio del sciopero della fame, si parla del 41 bis da tutte le parti. Questo è bello, qualcuno diceva si parli male o si parli bene purché se ne parli, però ci sono degli errori che sono abbastanza evidenti e che magari cercherò adesso di chiarirvi. Intanto il 41 bis, quindi l'articolo, o meglio il regime del 41 bis, è una misura di prevenzione, quindi non è una condanna. In tutti i talk show che sentiamo, o anche nei telegiornali, si parla di 41 bis come una condanna. La condanna, come giustamente ha detto poco fa il nostro relatore, Tommaso, me lo ricorderò prima o poi, come giustamente poco fa ha detto Tommaso, la condanna la infligge il giudice, il 41 bis no, il giudice è un magistrato, quindi è un organo che fa parte ovviamente dello Stato, però della magistratura. Chi invece applica il regime detentivo speciale, cosiddetto carcere duro, ovvero 41 bis, chiamiamolo come vogliamo, è invece un organo dell'esecutivo. La sottoscrizione avviene a nome a firma del Ministro della Giustizia, quindi organo esecutivo, fa parte sempre dello Stato, ci mancherebbe, però un organo esecutivo, di concerto ovviamente con il Ministro dell'Interno. Quindi abbiamo già un passo diverso: condanna dal giudice, e l'articolo 41 bis, o meglio il regime del 41 bis, viene dato da parte dell'organo esecutivo. Tant'è vero che su questo ci sono ovviamente fiumi e fiumi di parole scritte, proprio perché si ritiene l'illegittimità, si è sempre sostenuta l'illegittimità di questo regime, o perlomeno dell'applicazione di questo regime da parte di un organo amministrativo e non da un organo invece giudiziario, però anche su questo siamo andati avanti. Vero è però quello che viene detto. L'errore c'è dal punto di vista tecnico, però dal punto di vista invece popolare è vero, il 41 bis è una condanna, perché si passa da una misura di prevenzione fino ad arrivare a una condanna vera e propria, nel senso che tanto una volta che ti viene applicato il regime o sconti tutta la tua condanna, se hai ovviamente una condanna temporanea, quindi non hai l'ergastolo, sia che sia ostativo sia che non lo sia, e quindi esci dal carcere, oppure al 41 bis è difficilissimo riuscire ad avere la revoca, perché è evidente che può essere anche revocato da parte dello stesso ministro in misura preventiva anche questa, o comunque insomma anticipata, oppure da parte di quello che invece è l'organo giudiziario, perché si fa appunto il reclamo davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma, quello che è stato fatto appunto per Alfredo, si presenta il reclamo, poi il Tribunale di Sorveglianza di Roma, che è l'unico tribunale deputato a decidere sull'applicazione e quindi si decidere sull'applicazione del regime del 41 bis è appunto questo, l'unico in Italia, mentre fino al 2009 ogni tribunale di sorveglianza della circoscrizione nella quale era detenuto il soggetto appunto al quale veniva applicato il 41 era competente per decidere. Quindi paradossalmente, se ci fosse stata la vecchia normativa, Alfredo avrebbe dovuto presentare il reclamo quando appunto gli è stato inflitto il 41 bis presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, invece evidentemente non è più così, quindi l'abbiamo presentato a Roma. Quindi questo fino al 2009 e adesso appunto l'unico tribunale competente. Quindi abbiamo un tribunale speciale, anche se non può essere considerato un tribunale speciale, perché nella nostra Carta Costituzionale i tribunali speciali sono solo 3 o 4 e non rientra il Tribunale di Roma. Un'altra precisazione, perché anche questo è un errore gravissimo, questo è proprio grave invece, che viene detto in tutti i saluti, è il fatto che il regime del 41 bis viene appunto applicato a chi ha l'ergastolo ostativo, non solo l'ergastolo, ma addirittura l'ergastolo ostativo. Poco fa Tommaso ha già anticipato il fatto che il regime detentivo speciale viene applicato a chiunque. Cosa vuol dire? Adesso non è che domani mattina ci alziamo e ci viene dato insomma il regime, però cosa vuol dire? Viene quindi applicato a coloro che sono già condannati con condanna definitiva, pena temporanea, quindi pena di 1 anno, 10 anni, 12 anni e io esco dal carcere, coloro che sono condannati con pena detentiva perpetua, quindi ergastolo, voi ergastolo ostativo, voi ergastolo normale, diciamo, che poi comunque una sorta di ostatività c'è sempre, però in maniera più lieve, ma ovviamente non è questo il caso di approfondire. Viene quindi applicato nei confronti di coloro che sono imputati, quindi non hanno nessun tipo di condanna, vengono però messi in misura cautelare all'interno ovviamente di un carcere, perché deve esserci comunque la custodia cautelare quantomeno in carcere, e a quel punto può essere applicato il regime del 41 bis. Io ho parecchi assistiti che hanno appunto la misura cautelare ancora, 6 anni di misura cautelare, attendono di fare magari ancora il primo grado di giudizio, oppure hanno fatto appunto il primo grado di giudizio, stanno aspettando il secondo o stanno aspettando la Cassazione, hanno misure cautelari, quindi non hanno una condanna, però hanno la cosiddetta condanna del 41, quindi rimangono in carcere. Viene poi applicato anche a chi è già stato scarcerato, ovvero a coloro a quali viene data una misura che sarebbe la casa di lavoro, è che per la loro comunque perché vengono comunque ritenuti dei soggetti talmente pericolosi, viene comunque applicato in ogni caso anche il regime del 41 bis, quindi alla misura della casa di lavoro si somma la misura del 41 bis e quindi vengono tenuti all'interno del carcere. L'unico istituto dove vi è appunto la casa di lavoro è quello di Tolmezzo, dove vi sono adesso 8 internati, che comunque di anno in anno, perché poi ovviamente questa misura viene rinnovata di anno in anno, o di biennio in biennio oppure di anno in anno. Non sto parlando della misura del 41 bis, perché il 41 bis viene applicato per la prima volta per 4 anni, la prima applicazione, poi il rinnovo è di 2 anni in 2 anni, mentre invece per quanto riguarda la stessa cosa, ovviamente per quanto riguarda coloro che sono già stati, diciamo, che hanno già scontato, quindi gli internati, quelli della casa di lavoro, però il problema loro è rappresentato dal fatto che non stanno più scontando una pena detentiva, ma stanno scontando una misura. La misura è poi ovviamente variabile, ma solitamente va o da 1 anno, 2 anni, insomma. E quindi una volta che scade la misura, se viene ritenuta che la persona è ancora pericolosa, si rinnova la misura. Si trovano tra l'altro queste persone addirittura in condizioni peggiori rispetto a coloro che invece sono detenuti in regime del 41 bis, paradossalmente. Perché mentre un detenuto in regime del 41 bis ha la possibilità di avere quei benefici che riguardano esclusivamente la liberazione anticipata, cioè lo sconto e la detrazione della pena da scontare, coloro che invece si trovano in casa di lavoro, avendo già scontato completamente la pena, non gli viene scontata nessun tipo di, neanche un giorno, quindi loro hanno 1 anno di misura, 1 anno completo si fanno, paradossalmente rispetto invece a un detenuto al 41 bis che sta scontando magari lo stesso 1 anno, però se ha una buona condotta, da quell'anno bisogna togliere ogni semestre 45 giorni e quindi esce prima. Ok, quindi no, il 41 bis non è una misura che viene data così oppure soltanto, ripeto, ai condannati, ma a tutte queste categorie di persone. Da questo evidentemente si vede che comunque è un regime molto, molto afflittivo, perché non può essere considerato differentemente. Adesso insomma vi dico che è evidente che ci sono delle problematiche molto più grosse rispetto a quelle che stiamo valutando, però dobbiamo ovviamente affrontarle. Intanto parliamo di una norma che è una norma di rango ordinario, perché è una legge dello Stato. Ora, io vi ho detto che confligge con quella, comunque va in lotta con quella che è la nostra Carta Costituzionale, perché la nostra Carta Costituzionale è una norma primaria, quindi la norma che ovviamente deve essere rispettata da tutti. E esiste una gerarchia delle fonti, si chiama, quindi prima viene la Carta Costituzionale, poi viene appunto la norma ordinaria, e comunque cosa succede? Che al di sotto poi arrivano altre ovviamente norme che sono sempre di rango inferiore, tra le quali ovviamente si collocano anche quelle che sono le circolari e i regolamenti. Perché vi parlo di questo? Non perché mi è venuto così per essere troppo tecnica, perché a fronte di quella che io vi ho detto che è la nostra, che può essere considerata, passandomi il termine, la nostra Bibbia, cioè la Carta Costituzionale, la Bibbia all'interno del regime del 41 bis sono le circolari, che sono appunto un insieme di regole che vengono dettate da parte di quello che è ovviamente l'amministrazione penitenziaria, o meglio il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che servono per regolare quella che è la vita interna del regime del 41, o perlomeno non del regime, di coloro che sono inseriti all'interno del regime del 41. È una norma fondamentale, che è una norma, una circolare fondamentale, è appunto quella del 2 ottobre del 2017, che è stata emanata proprio per uniformare tutto quel che è il trattamento che avviene nelle vari istituti del regime del 41 bis, quindi in Italia. E quindi insomma è stata diciamo creata questa circolare, che viene seguita in tutti gli istituti. Ricordiamoci che gli istituti sono compresi dal Lazio in su. Adesso in su cosa vuol dire? In su dell'Italia, perché io siccome sono sono ovviamente isolana e sono in giù, quindi parlo di giù, nel senso che l'articolo 41 bis prevede espressamente che si dovrebbe privilegiare intanto la collocazione di chi sta appunto al regime del 41, la collocazione insulare. È evidente che siccome è l'unica isola che esiste, nel senso che l'unica isola che esiste, perché la Sicilia non può essere un'isola nella quale può essere collocato un regime del 41, proprio perché se si vuole evitare che coloro per i quali, diciamo, è stata creata questa norma, quindi quelli che vengono considerati mafiosi, quindi quelli siciliani, abbiano un reparto del 41, o meglio, se si vuole quindi evitare che abbiano quindi collegamenti con il loro territorio, evidentemente non hanno creato sezioni in Sicilia, non ci sono sezioni in Sicilia, non ci sono sezioni in Calabria, Campania, Puglia, perché queste sono ovviamente le 3-4 anzi regioni che vengono considerate con ovviamente nelle quali insomma ci sono le organizzazioni criminali che vengono considerate quelle più pericolose, e quindi in quelle regioni, nelle regioni della Bassa Italia, non vi sono reparti del 41. L'unica regione della Bassa Italia, che poi ormai mi ritengo un po' centrale, però questa è la Sardegna, ma perché la Sardegna è proprio la regione ad hoc, perché è insulare, è proprio un'isola, siamo staccati da tutto e da tutti, e quindi lì ci può stare la sezione. Tant'è vero che nel 2013, con l'apertura dell'istituto nuovo di Bancali, e poi nel 2015 però con l'arrivo dei nuovi dei detenuti in quella sezione, è stata anche predisposta una sezione ad hoc, un reparto ad hoc del detentivo appunto del 41 bis, ed è l'unico reparto che è stato creato proprio con la finalità di ricevere, di accogliere i detenuti in regime del 41 bis, perché tutte le altre sezioni che sono collocate nell'Alta Italia, cioè da Roma in su, sono tutte sezioni che sono state però adattate, cioè esistevano già e sono state adattate per i detenuti del 41 bis, così come è stato fatto anche per la micro sezione che hanno aperto da poco a Nuoro, a Bado e Carros, dove vi sono 6 detenuti ormai, sono solo 6 detenuti al 41 bis, però sono nella sezione che era la sezione del femminile, ormai non hanno più femminile, quindi l'unica sezione del 41 che rispecchia appieno quella che era insomma il dettato, a parte normativo ma più che altro anche architettonico, che volevano insomma avesse, è quella della casa circondariale di Bancali. Ora, prima di passare a quelle che sono le limitazioni o perlomeno le violazioni degli articoli della Costituzione, vi dico, vi racconto un pochettino com'è la sezione di Bancali. Perché io faccio parte anche dell'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali, e quindi con ovviamente gli altri colleghi avvocati andiamo in giro anche per verificare quelle che sono le condizioni ovviamente degli istituti, quindi abbiamo avuto la possibilità di accedere alle carceri, insomma, ai vari reparti, mentre invece con il direttivo appunto di Nessuno Tupi Caino, l'anno scorso siamo riusciti a visitare la sezione di Bancali del 41 bis, quindi vi posso dare appunto un riscontro diretto, non per sentito dire né per racconto fatto dai miei assistiti. E intanto penso che tutti sappiate, se avete letto l'Espresso, ma non lo so, del 2015 sempre, perché era l'Espresso che l'aveva scritto, aveva proprio descritto bene com'era la sezione. La sezione è infossata, ma questo non lo dico io, lo dice ovviamente le carte, ma lo dice la mappa, ma soprattutto lo dice anche il Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà nei suoi vari rapporti che ha fatto sia nel 2018 proprio sulle sezioni di tutta Italia del 41 e nel 2017 sulle sezioni del 41 di Bancali. È una sezione infossata, ovvero si scende almeno 2 piani sottoterra e va in discesa, quindi si parte 2 piani sottoterra, vuol dire sotto il livello ovviamente stradale, e poi quando si arriva a questi 2 piani sottoterra si va comunque in discesa in ogni caso, perché l'ultima sezione va proprio giù. È divisa appunto in varie sezioni, ogni sezione, anzi ogni varco ha 4 camere di pernottamento, perché la prima cosa che ovviamente viene fatta, la persona che viene collocata nel regime, quindi all'interno appunto della sezione, viene assegnato un gruppo di socialità. Gruppo di socialità cosa vuol dire? Sono le uniche persone che possono avere contatti diretti con il detenuto al quale viene applicato il 41 bis, come è avvenuto ovviamente per Alfredo. Quindi cosa succede? Viene portato all'interno di questa sezione, al massimo ormai dal 2009 ad oggi, al massimo si può essere in 4, prima si è partiti da 9 persone, si è passati a 6, adesso in 4, massimo 4 persone per gruppo. Queste 4 persone possono ovviamente colloquiare, interagire tra di loro, Di solito viene fatto all'interno della camera di pernottamento, altrimenti viene fatto quando vi sono le 2 ore d'aria che sono consentite, perché le ore d'aria possono essere svolte appunto in gruppo, quindi in quattro insomma, oppure l'unica ora di socialità che può essere fatta, quindi durante appunto l'ora della saletta, basta, perché poi le altre 21 se se ne passano 3 fuori, le altre 21 ore si passano all'interno della propria camera di pernottamento. Quindi, dicevo, vi sono queste 4 camere di pernottamento, una stanza di socialità che è grande quanto una stanza, chiusa, piccola, senza le finestre, sono alte, sono a vasistas, non affacciano da nessuna parte. Poi vi è un'altra specie di stanza, perché io la chiamo stanza, che comunque è dove deve essere fatta appunto l'ora d'aria, ed è una specie di, loro lo chiamano cortile, sì è vero, un cortile forse è grande quanto questa stanza, anzi molto più piccolo di questa stanza, no, però mentre qui noi ovviamente vediamo la luce, vediamo il verde, vediamo gli alberi, lì ci sono 4 pareti in cemento, basta, sopra ovviamente c'è la gratta, e questo è il cortile nel quale viene fatta l'ora d'aria. Queste sono tutte chiuse in questo modo, quindi 4 per ognuno, una specie di lisca di pesce. Questa è la sezione del 41 bis di Bancali. Evidente che, ce l'ha detto poco fa anche il professore, qua si tratta non di isolamento, di isolamento, perché non si vede nient'altro, non si vede nessuno, e quindi si viene deprivati di tutte quelle che sono qualsiasi cosa, che per noi è normale, ma il normale, il respirare, il mangiare e il parlare non basta ovviamente a una persona che sta fuori, figuriamoci una persona che sta all'interno del reparto. Ed è proprio per queste condizioni che Alfredo si è determinato a iniziare appunto lo sciopero della fame, anche in considerazione del fatto che lui è stato collocato nelle sezioni con ovviamente altre 3 persone prima, poi è stato anche spostato, quando è stato spostato addirittura lui è stato collocato con 2 persone che stanno all'interno del regime del 41 bis da 30 anni, sono ergastolani e ergastolani ostativi, quindi dal 1993. Così, in questa condizione di isolamento. E poi l'altro ragazzo, sempre un ergastolano, che comunque dal 2010 mi sembra. Quindi lui è stato posto all'interno di quel gruppo, in quella sezione, e ovviamente le uniche persone con le quali poteva colloquiare erano queste persone qua. Quindi qua è evidente che in una situazione del genere le condizioni sono o vai avanti oppure qualcosa devi fare, e lui appunto ha deciso di fare qualcosa evidentemente, ma anche perché le privazioni sono tante, a prescindere da quelle che vi ho appena detto. Una delle privazioni più che lui ovviamente sente di più è la questione relativa al fatto di non potersi nutrire di quella che è la sua diciamo passione fondamentale, che sarebbe la lettura, la cultura, quindi vengono anche limitati in questo, perché i libri non possono essere, tanto i libri devono essere acquistati dall'impresa di mantenimento, bisogna fare la domandina come abbiamo detto più volte, quindi la cosiddetta richiesta, secondo che libro è non ti verrà mai comprato, a meno che non hai l'autorizzazione da parte del magistrato, quindi passano almeno 6 mesi, perché devi comunque iniziare una sorta di lotta nei confronti di chi non te l'acquista, quindi devi andare davanti al magistrato, il magistrato ritiene forse che può andare bene. Vengono privati, l'anno scorso sono stati privati, per esempio sono state rigettate le richieste per acquistare il libro della Cartabia. Noi sappiamo benissimo che la Cartabia è l'ex ministro della giustizia, colei appunto che ha firmato il primo decreto di applicativo del regime del 41 bis, viene quindi privato, cioè vengono addirittura bloccati questi libri, quindi non possono leggere neanche il libro scritto dal ministro della giustizia. L'anno scorso mi ha assistito, ha fatto addirittura si è preso una sanzione disciplinare perché chiedeva insistentemente di poter acquistare il libro che parla della biografia del Papa Francesco, che è stato scritto però dall'ex cappellano del carcere di, non mi ricordo se è Poggioreale, Quindi addirittura un libro scritto da un ex cappellano, anzi da un cappellano, però ex nel senso che non ci sta più a Poggio Reale, comunque da un cappellano che scrive la biografia di un papa, è stato privato anche di acquistare questo libro. Ad Alfredo le privazioni sono state tante, per Alfredo perlomeno, appena è arrivato anche il fatto di bloccargli tutte le lettere, tutte le cartoline, tutti i telegrammi che venivano inviati venivano bloccati assolutamente da parte della censura, perché un'altra norma fondamentale che viene violata è l'articolo 15 della Costituzione, che riguarda ovviamente la corrispondenza. Ma perché? Perché c'è quell'altra norma invece di rango inferiore, però è sempre norma, che è l'articolo 18 ter dell'ordinamento penitenziario, che prevede che coloro che sono collocati all'interno del regime del 41 bis, ma questo avviene in realtà anche negli AS, che sarebbero quelli in alta sicurezza, perché qua sembrava che Alfredo non avesse nessuna controllo, invece il controllo l'aveva anche prima. Comunque, coloro che vengono collocati nel regime del 41 bis hanno quindi la corrispondenza sia in entrata che in uscita completamente censurata, quindi viene letta da parte dell'ufficio, l'ufficio preposto, l'ufficio censura, e poi se si ritiene che ci sono delle parole, delle frasi, qualcosa che non si capisce, viene trattenuta, mandata per ovviamente la richiesta di autorizzazione per il trattenimento o definitivo o meno al magistrato di sorveglianza, che poi prenderà le sue decisioni. Tutti i telegrammi che hanno inviato ad Alfredo all'inizio della sua carcerazione, della sua collocazione del 41 bis, sono stati trattenuti tutti. Noi abbiamo fatto udienze non questo mese, il mese scorso ancora, cioè per 2 mesi di seguito. Io facevo udienze per almeno 20 reclami per volta, tutti per telegrammi nei quali risultava che veniva scritto insomma un abbraccio, un incoraggiamento, veniva anche sottoscritto, nel senso che comunque c'era il mittente, però formalmente il mittente non risultava, nel senso che, tant'è vero che io ho anche detto a qualcuno: vi prego, mettete il mittente, almeno scrivete Mario Rossi, quello che vuoi, perché altrimenti vengono trattenute. Sono state trattenute tutte sbloccate da parte del tribunale, perché il tribunale ha ritenuto che insomma le mie doglianze fossero vere e le mie eccezioni, quindi ritenendo che non vi fosse nessun tipo, il contenuto non fosse pericoloso né per l'ordine né per la sicurezza pubblica, né interna né esterna all'istituto, perché comunque si trattava di frasi innocue, parliamo così. Ciò nonostante siamo in Cassazione, perché fino all'altro giorno non le impugnavano, invece adesso il procuratore generale ha deciso di rivolgersi alla Cassazione, quindi adesso abbiamo ricorsi in Cassazione per questi. Quindi aspetteremo anche quello. Però dicevo, stiamo parlando quindi di un di diritti, insomma, anche il contatto con l'esterno, questo era l'unico contatto che eventualmente poteva avere Alfredo, e anche per questo comunque veniva limitato ed è stato limitato. Ovviamente la censura continua a esistere, a sussistere. Pensate che io tutte le volte che mando il telegramma, perché da quando Alfredo è stato trasferito a Milano io solitamente riesco a venire una volta a settimana, quando non vengo mando il telegramma. I miei telegrammi, nonostante ci siano le pronunce dell'anno scorso anche della Corte Costituzionale, con le quali hanno ritenuto insomma illegittimo il trattenimento dei telegrammi o comunque la lettura del telegramma proveniente dall'avvocato, i telegramma che io ho mandato ad Alfredo, il primo quando era stato trasferito, l'avevo mandato il lunedì, il venerdì che era venuto Flavio, quindi l'altro collega, per fargli il colloquio, non gliel'avevano ancora consegnato, nonostante io avessi mandato anche una PEC. Gliel'hanno consegnato il sabato mattina quando sono arrivata io, perché io ho chiesto, insomma, avevo mandato un'altra PEC dicendo: scusate, ma almeno il telegramma mio dove dico sto arrivando. E però continua ad essere così, insomma, la questione della censura, quindi è una cosa abbastanza pesante. E il fatto poi di non poter ovviamente scrivere e leggere quelle che sono le riviste che vorrebbe leggere lui, le riviste anarchiche e tutto, lui l'hanno ovviamente molto provato. E il fatto poi di non avere contatti con nessuno, perché i colloqui avvengono, come stava dicendo appunto poco fa, con il vetro divisorio, quindi non si può abbracciare più un parente, un figlio, un fratello, una sorella, una mamma, qualsiasi persona, insomma una moglie, e quindi questo ovviamente crea dei disagi, viene limitata a quello che sono i diritti ovviamente all'affettività in tutto e per tutto, E per lui è stato veramente, veramente pesante, e quindi giustamente ha iniziato, io dico giustamente nel senso, giustamente insomma, però comunque ha iniziato questa sua lotta. E questo è. E poi ovviamente le tematiche, quindi anche gli altri diritti che vengono lesi, sono il diritto alla salute. Abbiamo appena sentito che è deceduto adesso questo detenuto, che è quello che è della massa tumorale, no? Non lo sai? No, non lo sai se è quello della massa tumorale. Ok, no, perché vi dico anche che è vero che Alfredo è stato trasferito, perché questo faccio una parentesi, però è quello che ho sostenuto anche l'altro giorno. Noi l'altro giorno avevamo, il venerdì avevamo i due reclami per la detenzione domiciliare speciale per Alfredo, uno era su Sassari, uno era su Milano. Su Sassari perché era già aperto lì, quindi in realtà la competenza era ancora su Sassari. E io ho sostenuto che sì, è vero che Alfredo è stato spostato da Sassari perché comunque l'area sanitaria di Sassari non aveva le competenze, continua a non averne, perché uno dei diritti che viene più leso è il diritto alla salute, non pensiamo che non lo sia, però è vero che è stato trasferito qui a Milano, dove comunque c'è una struttura che è sicuramente superiore, migliore, quello che volete, però è anche vero che a Milano da maggio scorso a quest'anno, io sapevo comunque a febbraio, ma se tu mi dici addirittura a marzo, sono morte 9 persone, 9 detenuti al regime del 41 bis, dentro i reparti del 41 bis e ancora con il regime 41 bis. Cioè non andiamo da nessuna parte, fin tanto che il diritto alla salute non verrà ritenuto superiore a qualsiasi altro diritto delle persone, e anche il diritto alla sicurezza, perché poi ovviamente si fa sempre una comparazione tra la sicurezza pubblica e la salute del detenuto, e vabbè, ovviamente il popolo ha sempre più diritti di un singolo, e allora buonanotte. Però non può funzionare così, perché il diritto alla salute con il regime del 41 bis è completamente compresso, compromesso e schiacciato, non so. Io avrei tante altre cose, però forse... No, intanto grazie. Grazie. Io ho l'impressione che Charlie ci lascerà, dovrà andare via tra poco, o mi sbaglio? No, non ti sbagli, purtroppo tra 10 minuti dovrò andare. Tra 10 minuti, quindi io direi, se vuoi fare un contrappunto adesso, oppure noi andiamo e quando poi ti... Come preferite voi. Che dici, li facciamo... Se hai qualcosa da dire... Ora conviene che approfittiamo. Se ci sono domande sono a disposizione, se no ascolto molto volentieri quello che dice Calizza. Vuole chiedere qualcosa a lui. Ecco, allora diciamo così, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande a lui, le facciamo adesso, perché in 10 minuti va. Direi di no. Vabbè. No, ha detto di procedere, quindi andiamo, va bene. Allora andiamo avanti. Sì, passo a te. No, sto qua. Sì, usa ecco, il microfono, funziona, dovrebbe sì. Funzionare. Sì. Sì, sì, no, volevo dire una cosa, cioè di questo detto, diciamo l'applicazione del 41 discende, per esempio, quando uno ha finito la pena, dalla valutazione della pericolosità del soggetto, prima che uno sia condannato, diciamo, o forse addirittura imputato, dipende dalla valutazione dei sospetti sul soggetto. Quindi il 41 in realtà avviene per emanazione ministeriale, quindi amministrativa, e si basa su delle carte di polizia. Cioè, diciamo, in qualche modo nell'applicazione del 41 l'informativa di polizia assume un ruolo determinante, e questo forse un po' c'entra col diritto penale del nemico, se ho capito bene, sì, qual sì, è il concetto, e quindi ti lascio è la DDA che insomma che manda le informative sia all'inizio, sia durante, sia alla fine, quindi diciamo che è quello che valuta, ma... Allora, buonasera a tutti, ringrazio insomma di questa iniziativa, e sono molto contento insomma di intervenire qua innanzitutto perché i discorsi che ho sentito fino ad ora, sia da Barnao che da Pintus, insomma, mi trovo bene, insomma, si inquadrano bene quello che andrò a dire, perché insomma inquadrano bene la questione. Un altro motivo, insomma, di questa insomma, per cui sono contento, è perché, insomma, questo è il sono stato introdotto prima, ho fatto una ricerca all'interno del carcere sul 41 bis, in cui ho intervistato dei detenuti che si trovano tuttora, alcuni di questi, molti di questi, in AS1. Questo in realtà è stato pubblicato nel 2018, quindi non è recente, era in realtà la mia tesi di dottorato. Il motivo per cui io ho scelto questo tema è ho avuto la possibilità, quindi, di intervistare queste persone, perché anch'io sono stato in carcere, ho vissuto in prima persona la sezione di alta sicurezza, e da qui anche, diciamo, il motivo di ricerca, il motivo anche per cui, insomma, del mio anche posizionamento sulla questione. Ecco, e appunto, come dicevo prima, insomma, sono contento perché io, è la prima volta che mi chiamano a Milano. Io, diciamo, il mio percorso di carcere e di studio è nato a Milano, perché sono stato arrestato a Milano, quindi ho visitato gli AS di Milano, tra Monza, Opera e Voghera e San Vittore, anche prima che chiudesse, quindi poi sono stato mandato a Padova, dove poi sono stato scarcerato, anche dove ho continuato il dottorato, eccetera. Ecco, e, riprendo sulla questione, per partire, insomma, dell'inganno spesso che c'è anche nell'utilizzo del termine del 41 bis, è anche che secondo me è molto importante, perché viene spesso ingiustamente, inadeguatamente definito carcere duro, e dico questo perché definirlo carcere duro è sbagliato, perché ti porta a pensare innanzitutto a legittimare e giustificare il resto del carcere, perché significa che il resto del carcere è leggero. Ecco. E quindi già, se secondo me, c'è un errore chi utilizza questo termine del carcere duro, perché il termine esatto, insomma, per definirlo è quello che diceva Charlie prima, è un carcere di annientamento, è una tortura. Ecco, ma io ho visto io in prima persona perché il carcere altro, insomma, non il 41 bis, il resto del carcere non è il carcere duro. Cioè, che il resto del carcere è carcere duro, perché quando io sono finito in carcere, sto parlando del 97, qua a Monza, nella sezione di alta sicurezza, il regime che c'era in quel periodo era identico. Cioè, ti contavano il numero, ti contavano gli indumenti, i calzini, i pantaloni, le magliette, ti contavano i libri, ti contavano le cose che c'erano all'interno del carcere, che non dovevano superare, insomma, il 31 o il 35, quindi anche i francobolli, quindi, perché poi se si mettevano a contare, arrivava quando si facevano la perquisa, che arrivava quello pignolo che ti contava anche i francobolli, quindi ovviamente si superava, quindi dovevi stare attento anche a non avere più francobolli e buste del necessario, o pasta. Ecco, si poteva cucinare, a differenza del 41, si poteva andare all'aria con tutta la sezione, però, tra le stesse persone. Ai colloqui c'era il banco col vetro divisorio, perché magari adesso molte persone si sono dimenticate, però il banco col vetro divisorio è stato ordinato di toglierlo nel 2000, che poi questa modifica è avvenuta in molte carceri anche proprio di recente, perché non c'erano i fondi per toglierlo. Ecco, quindi io ricordo anche i miei colloqui, insomma, ricordo le telefonate, che io non ho potuto telefonare, perché siccome in AS la telefonata doveva essere non solo registrata ma ascoltata. Quindi parlando con l'Albania in albanese ci doveva essere un traduttore albanese, che non c'era, perché a quel tempo ero il primo a entrare, il primo albanese, quindi non c'era un traduttore. Per cui mi dicevano: tu se vuoi telefonare a casa devi parlare in italiano, perché noi dobbiamo ascoltare. Dicevo: guarda che mia mamma non parla l'italiano, è un problema tuo. Quindi tu puoi telefonare, però nel momento in cui tu dici una parola in albanese noi stacchiamo. Stacchiamo e ti facciamo pure rapporto disciplinare. Quindi io, per evitare, non telefonavo. Quindi hanno assunto un traduttore dopo parecchi, credo mesi, ma quasi un anno. Ho cominciato a telefonare dopo un anno che ero dentro. Ecco, quindi diciamo, dire che il 41 bis è un carcere duro a me dà fastidio, perché insomma anche il resto del carcere è un carcere duro. Ecco, io in quel periodo là però c'è una cosa insomma che ricordo bene, che è molto legata, perché a volte ci sono delle coincidenze, delle cose che ti capitano nella vita, che quando sono entrato in carcere il mio primo compagno di cella era di Caltanissetta. Questo, appena, ovviamente lì all'interno del carcere c'è un codice, così diciamo, dei detenuti, di comportamento. C'è questa subcultura carceraria che persiste all'interno delle sezioni AS, perché sono ovviamente delle sezioni omogenee, mentre nei comuni c'è più eterogeneità, quindi diciamo, i codici si sono un po' mischiati. Ecco. Quindi questa persona ovviamente mi spiega come funziona, mi fa anche il letto, perché lì è previsto insomma, questa cosa qua. Quando arriva un nuovo che è in carcere per la prima volta, si spiegano le cose. E quando insomma, mi stava spiegando che qua è diverso, che c'è questa sezione, poi c'è il resto del carcere in cui funziona diversamente, altre regole, altre cose, diceva: perché questa differenza? Che non capivo, insomma. Vabbè, anche il mio italiano a quei tempi non era, ecco, però col mio, insomma, con quello che sapevo, era a livello scolastico, perché l'avevo studiato a scuola. Ecco, e questo mi dice: perché noi siamo considerati dei nemici. Ci stanno, e noi abbiamo fatto, perché lui, cioè la bellezza era che lui aveva chiaro la situazione. Lui si sapeva, perché essendo, vabbè che lui, allora neanche lui, proprio perché lui era, in realtà si diceva di essere di Caltanissetta, ma era nato e cresciuto qua a Milano, perché il padre era di Caltanissetta, e si riteneva anche lui siciliano, quindi e le accuse erano tutte legate a suo padre che stava giù. Però lui aveva chiara questa cosa, c'era stata una guerra, c'era stato insomma tutto quello che era successo tra Cosa Nostra e lo Stato, e quindi questa era la reazione di questa guerra. Quindi loro, anche nella logica di quello che sono i siciliani, della cultura siciliana o mafiosa, se vogliamo dire tra parentesi, per cui dicono: cala iunque che passa la china, abbassa giunque che passa la china. Loro erano convinti che si trattasse di una cosa transitoria, no? Tanto siccome erano abituati ad avere le spalle coperte in passato, diceva: tanto cambieranno le cose prima o poi. Cioè, questa razione non durerà per sempre, questa era l'impressione. Soltanto che poi lui è andato a fare un processo giù, ovviamente portano in cella con me un calabrese. Questo invece mi dà una prospettiva di diversa realtà sicurezza. Lui si è arrabbiato con i siciliani, è arrabbiato con i mafiosi. Dice: questi ci hanno rovinato tutto, ci mandano pure noi ora il 41 bis. Cioè il discorso che lui, io a quei tempi non capivo niente, non sapevo cosa fosse il 41 bis, non sapevo, cioè la mia conoscenza della Sicilia era La Piovera. Avevo visto il film La Piovera, ecco, quindi quello avevo visto. Io mi ricordavo Espinosa, Cattani, Santuccio, cioè i personaggi, però non è che riuscivo a inquadrare bene. Quindi arriva il calabrese che non sapevo, e lui faceva chiaro questo discorso. Prima diceva loro: questa è una roba che deve riguardare loro, hanno fatto loro i casini, devono pagare loro, stiamo pagando pure noi. Perché ora, stiamo parlando del 97, Ora ci stanno mandando pure noi al 41 bis, diceva lui. Ecco, io poi ovviamente queste cose, poi perché lì sono adesso, insomma, cerco di riprendere queste cose perché poi le ho ritrovate a distanza di anni, con questi due concetti. Le ho ritrovate a distanza di anni perché quando poi, come dicevo prima, mi sono messo a studiare, perché io anche quando mi avevano arrestato ero iscritto all'università, però poi ho dovuto cambiare tutto perché non si poteva più in AS iscrivermi all'università, quindi ho dovuto aspettare anni per riprendere gli studi. Quando li ho ripresi, poi quando ho fatto mi sono interessato della ricerca in carcere di sociologia del penitenziario, quindi mi sono messo a fare ricerca in carcere, ho scritto alcuni articoli, cioè facevo ricerca etnografica su altri argomenti, ho fatto, insomma, andavo in giro a intervistare i compagni detenuti, quindi mi aveva appassionato un po' questa cosa qua, e leggendo anche un po', insomma, questo qua, avevo incontrato un testo di un autore tedesco, Gunther Jacobs, che nel 97, cioè, mentre io nel periodo in cui mi avevano arrestato, lui aveva scritto un libro in cui teorizzava questo diritto penale del nemico. Cioè, secondo lui faceva un ragionamento chiaro, lui diceva: io non è che sto inventando l'acqua calda, si tratta di una cosa che si sa, che tutti sanno, che tutti, insomma, che esiste, almeno viene scritto, insomma, viene citato così nei testi, insomma, anche più antichi, dal diritto romano, ma anche prima, come diritto d'eccezione, che è quell'insieme di norme che il sovrano pone, insomma, nelle situazioni in cui si sente in pericolo, ecco, quindi per sopravvivere, eccetera. Quindi, ecco, c'è questo il diritto, poi anche insomma, poi se pensiamo anche ai tempi più recenti, ma anche se penso anch'io, insomma, perché io la mia infanzia è nell'Albania dell'era comunista, quindi io il diritto, cioè, erano concetti, insomma, il nemico interno, il nemico esterno, quindi lo stato di eccezione era una cosa, insomma, su cui mi era abbastanza familiare, ecco. E, poi questo autore dice che oltre, cioè, l'evoluzione del diritto penale di eccezione è il diritto penale del nemico e il diritto penale d'autore, che sono due cose che si intrecciano e spesso si sovrappongono. Perché che cosa significa? Significa che c'è un diritto penale ordinario, quello che conosciamo noi, liberale, che è indirizzato ai cittadini, e quindi perché considera le persone delle persone, quindi con un corredo di diritti, di tutele, ma tutele sia nella fase di indagine, nella fase processuale, nella fase di esecuzione penale. E poi c'è un diritto penale che lui dice di nemico, perché, per il quale il diritto non considera più questi soggetti come delle persone, come dei cittadini, ma li considera appunto come dei nemici, quindi spogliati di questo corredo di tutele, di garanzie. Ecco, questo perché ci sono queste persone, ci sono delle categorie delle persone che non sono che non riconoscono l'ordinamento giuridico e l'ordine prestabilito, lo rifiutano e non offrono nemmeno, come dire, la garanzia cognitiva che un giorno lo faranno. Quindi, siccome si sa che questi non cambiano idea, li annientiamo. C'è, cioè, l'idea è quello di inserire degli dispositivi che sono volti all'eliminazione del problema, l'annientamento quindi del pericolo. Ecco, quindi, che in cosa consiste questo? Che poi dico, consiste in questo che lui definisce diritto penale d'autore, perché prevede, insomma, di inserire un catalogo, direi, di dispositivi che non vanno a colpire l'azione, cioè quello che la persona ha fatto, ma vanno a colpire l'autore in generale, cioè l'autore, vanno a colpire la persona per quello che è, per quello che pensa, per quello che che rappresenta e non per quello che fa. Ecco, allora in pratica come si riconosce insomma di essere di fronte a dei dispositivi che vanno inquadrati in questo, che vanno inseriti in questo, in questo frame? Allora, intanto faccio una cosa, do alcune cose, alcuni esempi semplici insomma che sono magari a vista che tutti conosciamo, ma che spesso nessuno pensa insomma che va inquadrato lì. Nella fase della garanzia delle garanzie che la persona ha nel corso di un processo, tutti noi siamo imputabili per le azioni che noi facciamo, ovviamente. Quindi se io rubo una cosa vengo processato per il furto. La cosa più insomma che tutti conoscono, che è stato anche sventolato come un'arma efficace contro il Cosa Nostra, contro la criminalità organizzata, sono i maxi processi. I maxi processi sono dei processi in cui si prendono, insomma, si ha un teorema, si prendono, insomma, se vediamo la storia, anche casi di 100, 200, 300 persone, e si fa un processo unico. Quindi in questo processo unico non si vanno a valutare le azioni individuali, si va a verificare questo teorema, se il teorema regge, per cui allora tutti vengono condannati all'interno di questo teorema. Quindi che cosa significa? Significa che tutti individuo, perché poi ovviamente non è che c'è un sindacato in un maxi processo, c'è che c'è un sindacato degli imputati, ognuno si presenta col suo avvocato, quindi ognuno deve per potersi difendere presenta, cioè, cerca insomma di presentare prove a discolpa dell'azione per cui si pensa insomma di aver dato un contributo a questa associazione. Soltanto che ogni tentativo di questo tipo poi alla fine se uno va per lì sicuramente magari conosce bene, però io siccome ho letto tante sentenze processuali quando ero dentro in AS con tutta gente inserita in maxi processi, insomma mi accorgevo che chiunque non avrebbe avuto la possibilità di difendersi di fronte a un processo di questo tipo. Ecco, per cui poi se volete faccio anche un esempio concreto. Vi ricordo anche una persona che poi ho intervistato, era uscito dal 41 bis, ho intervistato per la mia ricerca. Questo era stato inserito appunto all'interno di un maxi processo in cui erano stati dati 100 ergastoli perché questa persona aveva prestato le chiavi di un casolare a un capo mafia. Lì erano andati a dirgli: guarda, ha detto Tizio che il casolare ci serve, che dobbiamo portare dei latitanti lì dentro a tenere. Lui, per simpatia o per paura, nessuno sa, gli ha dato le chiavi, il casolare del nonno morto, un posto che lui diceva: io non ci ho mai messo piede in vita mia. Poi dopo, a distanza di 10 anni, arrestano questo gruppo e il capo insomma, si pente subito, racconta di aver fatto all'interno di questo casolare di aver ammazzato delle persone, e, fa i nomi di tutti, fa arrestare tutti i compagni e ovviamente fa anche il nome del proprietario del casolare. Vanno a prendere anche lui all'interno di questo maxi processo, anche lui condannato all'ergastolo. Condannato all'ergastolo e messo al 41 bis, poi ovviamente è uscito quando... perché poi cioè, non è che dico delle cose, anch'io quando faccio le interviste con le persone detenute mi metto anche insomma il dubbio, cioè, c'è sempre che si sta raccontando la verità oppure no, però ovviamente ci sono le carte processuali che vado a leggere, ma poi ovviamente questa persona adesso, perché è uscito dal 41 bis, là dove era prima nel carcere, dove stava prima, dicevano no perché c'è l'ergastolo stativo. ovviamente è venuto a Padova, ha trovato il magistrato che dice: guarda, il tuo ergastolo, perché è un concorso esterno, non può essere ostativo. Voglio dire, quindi va in permesso, adesso è anche in misura alternativa, per dire anche quanto questa cosa. Però voglio dire che ecco, il primo dispositivo, insomma, che è questo. Poi ovviamente c'è l'inserimento, viene detto, di reati che non sono legati a un'azione, come l'associazione a delinquere, per stampo mafioso, stampo eversivo, a stampo, sì, tutto questo, cioè tutto questo, inserire dei titoli di reato che sono legati a fattispecie che non sono delle azioni proprio, che hanno a che fare con, come dicevo prima, anche che era all'elemento dell'idea di una persona, di quello che la persona rappresenta, ecco, oppure il concorso si sono inventati anche il concorso esterno. Che cos'è il concorso esterno all'associazione? Perché ovviamente c'è il concorso, cioè se una persona va a fare un omicidio, io lo porto in macchina, concorro, no? Perché c'è un concorso che è materiale. Ma il concorso esterno che cosa significa? Significa, io lo vedo poi spesso, insomma, che c'è il concorso esterno, è anche quello che magari il proprietario di un alimentare che manda il pacco con i salumi, il formaggio, lo dà al figlio di Tizio, fa, questo è un pensiero per tuo padre. Questo, e ci sono delle persone, le ho incontrate dentro, che perché poi quello, il padre si è pentito, ha detto che a me il tizio mi mandava i salami e i formaggi, così, e faceva i regalini, quel regalo si diventa un concorso esterno, e li sequestrano il negozio alimentare e lo mettono pure in carcere. Ecco, anche questo, insomma, c'è poi... È banale la cosa, cioè poi insomma, su cose davvero banali, però insomma questo è, si inquadrano in questa logica qua, che significa fare terra bruciata intorno alla persona. Fare terra bruciata significa, adesso io vi consiglio, chi vuole approfondire questo aspetto del concorso esterno, un libro di Alessandro Barbano che si chiama L'inganno, che spiega in modo... sì, ovviamente. Ecco, però insomma, che spiega questo in modo, insomma, io ho fatto degli esempi che ho visto io, ma lui ne fa proprio una rassegna di questi casi. Ora, altri elementi che ci dicono che siamo di fronte al diritto penale del nemico sono quelli legati all'esecuzione penale. Si diceva prima che l'articolo, cioè il regime 41 bis non è una cosa nuova, c'era anche prima, c'era l'articolo 90 inserito nel 75 con le carceri speciali per colpire i detenuti politici che organizzavano rivolte e si mettevano a fare azione di politicizzazione dei detenuti comuni, però che poi era stato trasformato con il Gozzini nell'86 in 41 bis, però aveva una cosa specifica, diceva che vanno trattati, cioè ci va dentro chi è coinvolto in questo tipo di attività all'interno del carcere. Se tu ti metti a fare organizzare rivolte, a parlare di politica ai detenuti comuni e ti metti lì a sequestrare un agente e chiedere il miglioramento delle condizioni, io ti mando qui dentro il 41 bis, prima articolo 90 poi il 41 bis, ma è molto importante questo, perché significa che io ti, come si diceva prima, è un dispositivo disciplinare, tu ti comporti male e ti metto lì. Invece nel 92 che cosa hanno detto? Hanno detto estendiamo questo alle persone, ai condannati, cioè ai sospetti, ai condannati per associazione mafiosa appartenenti a Cosa Nostra, perché c'è stato anche un dibattito, se uno va a leggere il preambolo di questa legge, c'è stato anche, insomma, anche lì c'era gente che diceva no, ma guarda che stiamo scherzando, cioè questo non è una cosa, cioè dal punto di vista giuridico non si può fare una cosa così, metti in isolamento di lungo periodo una persona che non ha fatto niente all'interno del carcere, per quello che lui potrebbe fare, cioè insomma, ecco, però insomma, siccome dice no, ma questi stanno mettendo le bombe, stanno facendo questo, stanno ammazzando i giudici, hanno dei collegamenti politici, hanno le spalle coperte, dobbiamo inventarci qualcosa, e andava bene, è andata bene a molte persone. Di fare questo, in questo modo, cioè, isolamento di lungo, anche se quei tempi era di un anno, hanno preso, che poi delle persone mi hanno raccontato, hanno fatto una lista di 200 mafiosi, sono andati a prenderli, li hanno messi nel carcere di Cuneo, Ascoli Piceno e Spoleto, tre carceri che, insomma, che hanno individuato queste tre sezioni. Poi che cosa succede? E quindi lì che cosa significa? Significa che, come è stato detto prima, ma lo ripeto velocemente perché si inquadra nel diritto penale del nemico, perché questo provvedimento si chiama provvedimento di sospensione del trattamento penitenziario. Il trattamento penitenziario è quello che contiene i diritti dei detenuti, la sospensione del trattamento significa la sospensione dei diritti. Ecco, quindi è molto chiaro che qua è una norma che considera queste persone non persone, per cui bisogna insomma tutelare i diritti, ma come dei nemici che non hanno più diritti. Ecco, ovviamente anche l'ergastolo ostativo, come è stato detto prima, è la produzione del 4 bis, perché anche il 4 bis è la stessa, cioè, sono state inserite insieme, una che ti mette in isolamento totale su sottoterra, come diceva prima, e l'altro che il 4 bis che dice non sono ammessi alle misure alternative queste categorie di reato. Che cosa significa questo? Che siccome appunto si diceva prima, l'articolo 27 prevede dei benefici, insomma, perché deve tendere alla rieducazione, per queste persone non è la rieducazione non è pensabile, tanto si pensa che queste non cambieranno mai, sono dei nemici che sono in guerra con noi, quindi che cosa ci serve a dargli le misure alternative? Quindi il 4 bis dice per queste persone non ci sono le misure alternative. Però è lì, anche qua, perché lì dobbiamo, secondo me, c'è di mezzo un'idea chiara del legislatore o di chi, insomma, del gruppo di interesse che ha spinto a portare avanti questa cosa. Però c'è anche, perché poi ovviamente i giuristi, gli avvocati dicono che la norma è una cosa viva che continua a evolvere continuamente, insomma, ad avere una sua vita, uno suo sviluppo autonomo. Ecco, il 4 bis non prevede i condannati per omicidio. Il 4 bis prevede per associazione, quindi l'ergastolo ti viene dato, a parte il 630 che è il sequestro di persona a scopo di estorsione, ti viene dato se ammazzi una persona, e il 4 bis questo non lo prevede. Se uno va a leggere il 4 bis non c'è l'omicidio, cosa del 575, mi ricordo. Ecco, non c'è, e lì c'è appunto un'acrobazia dei magistrati di sorveglianza che vanno a vedere, ti leggono la sentenza, dicono tu hai 4 anni per 416 bis, hai l'ergastolo per l'omicidio, siccome i 4 anni di 416 bis sono ostativi perché sono esclusi dal 4 bis, anche il tuo omicidio diventa ostativo. Ma come? Cioè, questa è la logica, perché ovviamente c'è stata una logica di combattere, di annientare il nemico dal legislatore, che però non si è spinto a mettere nel 4 bis anche l'omicidio, perché siccome per omicidio ci possono finire in carcere tutti, anche loro, ovviamente, perché a uno va e parte la testa, insomma, spara la moglie, spara un vicino, spara una cosa, quindi per l'omicidio non lo mettono il 4 bis perché lo possono fare tutti, però ci mettono il 416 che è l'associazione mafiosa, o il 74 che è traffico di stupefacenti, traffico internazionale, e poi sono i magistrati di sorveglianza che fanno questo connubio. Se tu hai questo, se tu hai un omicidio ma hai anche questo, li metto insieme e il tuo è ostativo. Io Io mi sono trovato anche con le persone, insomma, così, anche giudici in convegno a parlare di questo, perché mi dicevano che guarda che è straziante anche per una persona che sconta di 10 anni, 15 anni, chiede il permesso, perché uno pensa tanto io per 416 bis, o non so, perché può essere da domani anche per, come per, cioè per, non so, per associazione stampo terroristico o sovversivo, o 6 anni. Poi ho fatto un omicidio, ma perché, cioè io faccio i 6 anni ostativi, poi mi faccio i 10 anni per l'omicidio, posso chiedere il permesso. No, vai là, ti fai 15 anni, chiedi il permesso premio e ti trovi che il magistrato dice no, siccome tu hai 6 anni per associazione, anche l'ergastolo diventa ostativo. Ma come? Ecco, quindi, però questo magistrato, anche abbastanza insomma, importante, mi diceva no, una persona sa sin dall'inizio che lui è ostativo. Ma come fa a sapere se è ostativo? Cioè uno può immaginare che è ostativo, ma come fa a saperlo? Ecco, quindi... Il discorso, allora, questo, ecco, per questo io adesso, perché non voglio, io non avrei da parlare tanto su questo, faccio ultime due cose. Prima, perché tante persone dicono che chi sta al 41 bis oppure chi ha l'ergastolo ostativo ha le chiavi, ha lui stesso le chiavi per la libertà, perché nel momento in cui collabora apre questa porta e va fuori. Ma non è vero. Cioè io, delle persone che ho intervistato, ma anche delle persone che ho conosciuto, io anche a queste, anche se erano delle persone, insomma, che è una domanda che non è facile da fare in un ambiente come quello di alta sicurezza, però io siccome avevo una certa confidenza, oppure mi sono preso, io ho chiesto a tutti, ma tu perché ti sei fatto 20 anni di 41 bis e non hai mai pensato di collaborare con la giustizia e uscire fuori? Allora, soltanto uno mi ha detto guarda, io ho fatto una scelta di vita e adesso io voglio essere coerente con la mia scelta, quindi no, è una cosa che per principio non lo voglio fare. Alcune persone me l'hanno detto, ma un paio mi hanno detto guarda, io potrei anche dire qualcosa che non è venuto ancora fuori, perché insomma, perché ovviamente mi chiedono, so che loro vorrebbero che io parlassi di Tizio, potrei anche farlo, ma se lo faccio io ho i miei figli e la mia figlia che ha appena finito l'università, sta diventato un avvocato, ha finito giurisprudenza, sta lavorando in uno studio. Se io collaboro significa che prendono mia moglie e mia figlia, cambiano identità e lo devono trasferire in un'altra città, quindi tutto quella rete di amicizie, di conoscenze che ha fatto per tutta la sua vita, da studente, prima da professionista, ora andrebbe eliminata. Io già lei è cresciuta senza un padre, se io gli sconvolgo la vita di nuovo, insomma è un prezzo che non intendo pagare, piuttosto so che morirò qua dentro, però insomma non voglio causare questo ai miei genitori. Poi, ovviamente nessuno di loro ha parlato di paura, perché c'è anche questa all'interno del carcere, poi anche se uno non lo era prima, all'interno sviluppa diciamo questo sentimento un po' di mascolinità, che nessuno dice no, io non collaboro perché ho paura, però c'è anche questo, ovviamente oltre alla preoccupazione per la famiglia, però la maggior parte mi ha detto guarda, ti porto le carte. Il promotore della mia associazione si è pentito il giorno dopo che l'hanno arrestato, ha parlato di tutto, ha raccontato tutto, sono venuti a prenderci, io che cosa ci devo dire? Sanno tutto, cioè su cosa potrei collaborare? Non c'è niente su cui collaborare, perché già chi si è pentito prima di me ha già detto tutto. Oppure ho trovato anche quello che mi ha detto ma io non, davvero non so niente, guarda io è vero che ho 3 ergastoli, ma perché ho 3 ergastoli? Perché mi pagavano, andavo a sparare e io stavo a casa mia, cioè no, io non so niente di cosa facevano, di quali erano le dinamiche, di chi erano loro. Io ero stipendiato, aveva quei tempi in cui ha fatto questo omicidio, aveva 18 anni, all'età di 18 anni che cosa vuoi che ne sa? Poi a parte che non sapevo niente, ma adesso a distanza di 40 anni, quindi io non so proprio, non saprei neanche da dove cominciare, tanto quello che mi ha pagato si è pentito, ha raccontato, insomma mi ha fatto arrostare, mi ha fatto prendere gli ergastoli, Quindi anche questo, questa cosa che dicono, perché spesso quando si parla del 41, chi parla, insomma, sento nei loro interventi che dicono questi possono scegliere in qualsiasi momento di uscire dal 41 o, che ne so, di uscire dall'ergastolo ostativo, hanno loro le chiavi della libertà. Questo non, cioè, almeno per quello che poi io non ho la pretesa di dire di aver parlato, di aver fatto una ricerca su cui sono andato a prendere un campione rappresentativo. Cioè, io sono andato a intervistare quelli che c'erano in questa sezione. Quanto fossero rappresentativi non lo so, ma non mi interessa neanche, perché sono andato, insomma, ad approfondire le loro esperienze di vita. E quello che ho visto, cioè quello che è venuto fuori. Insomma, è questo. Io adesso, per concludere e riprendere un po' il discorso di prima, è che quando io sono entrato in casa, il calabrese mi diceva già nel 97, era arrabbiato, perché questi, insomma, si stanno portando pure noi. Il discorso del 41 bis è proprio questo, che dopo i calabresi ci sono andati i pugliesi, dopo i napoletani, dopo gli albanesi, perché dopo, e adesso io avevo scritto qua nel libro, perché dopo il 2002 hanno fatto questo decreto che potevano essere inseriti anche i condannati, i sospetti, insomma, per terrorismo o sovversione, e si sapeva già che nella sovversione andavano a inserire tutti, perché mi ricordo che in AS2 di Ferrara hanno portato gli attivisti Notav, li hanno messi lì insieme ai terroristi islamici, che ecco, per azioni poi, insomma, di resistenza in Val di Susa, che andava, di incursioni in cantiere, cose di questo tipo. Quindi già io avevo scritto là che ora, e poi riprendo anche i morti al 41 bis e concludo, perché io già avevo scritto che secondo me i prossimi a finire al 41 bis sono i sovversivi. E adesso, quando mi hanno invitato a Trento, mi ha detto uno: io avevo letto il tuo libro 5 anni fa, ti ho invitato perché avevo pensato a quello che avevi scritto, perché ho detto, ma perché è una cosa logica, è una cosa normale, insomma, a pensare questo. E si dice, ma lo sappiamo, che stanno morendo tutti al 41 bis, cioè, quelli arrestati, quelli di Cosa Nostra, arrestati negli anni 90, hanno 80 anni, adesso moriranno anche loro prima o poi tutti. Quindi, però, siccome aver reso il 41 bis permanente significa un'intenzione e anche tutte le strategie che si sono inventati e continuano a inventare per mantenere in vita questo, che non vogliono cedere, che non vogliono chiudere il 41 bis, quindi avranno bisogno di gente da mettere dentro. E questo per me è preoccupante, il fatto che queste persone adesso hanno 80 anni, cioè questi che erano i veri, diciamo, target del 41 bis, che hanno fatto la guerra, cioè gli appartenenti a Cosa Nostra, gli stragisti degli anni 80 e 90, stanno morendo tutti, significa che adesso tra un po' questi o diranno, che non lo diranno mai, che il 41 bis non ha più ragione di esistere, perché ovviamente questi sono tutti morti. Tutti i ricercatori, chi fa ricerca, ma chi studia, anche loro stessi, gli stessi magistrati stessi dicono che in Sicilia Cosa Nostra non esiste più, questi non sparano più, si sono trasformati in imprenditori, si sono inseriti nella politica, lo sono loro stessi a dire che questi non mettono più le bombe, non ammazzano più nessuno. Quindi è chiaro che uno dice, ma allora perché bisogna mantenere in vita questi? Però loro dicono adesso, sì, questo sì, però adesso noi stiamo facendo la guerra le mafie, da mafia è diventato le mafie, quindi adesso anche i Casamonica diventano mafia, quindi vanno a metterli al 41 bis, vanno a battere le loro ville, a sequestrare le loro attività, che ovviamente chi ha fatto questa legge nel 92 non avrebbe mai pensato di utilizzarlo sui Casamonica, non lo so, su questa categoria di criminalità che non c'entra niente, insomma, cioè non per fare di discorsi razzisti, ma io lo posso dire anche sui albanesi, chi l'aveva pensato che, e invece hanno messo 4 albanesi che portavano la marijuana con un gommone, l'hanno portato in Sicilia, solo che chi doveva comprare questo era il figlio di un boss. E quindi anche tu stai portando la marijuana ai mafiosi, sei mafioso anche tu, anche loro al 41. poi hanno tirati fuori dopo 6 mesi, però intanto, ecco. Quindi questo è il dramma, che adesso continuare a inventare delle categorie, cioè questo, dire la guerra alle mafie significa che al 41 ci possono andare tutti adesso, ecco, basta. Sì, certo. No, tanto c'è no, solo una cosa che mi preme, perché mi dispiace, effettivamente ha ragione Elton. Io non voglio dire, io ovviamente ho usato il termine carcere duro, sì, perché no, dico perché in generale, ma è evidente che tutto il carcere, con tutte le varie sezioni, è una questione che andrebbe insomma rivista in maniera un po' più approfondita, perché è vero che c'è questo regime, il regime più duro, ecco, diciamo così, però tutti gli altri regimi sono sempre regimi privativi. La prima privazione, che è quella della libertà, figuriamoci, è secondo me la cosa più grave in assoluto. Quindi se già si parte da quello, poi si iniziano a togliere tutte le questioni, e purtroppo per quanto riguarda anche i beni di prima necessità, oltre che, perché gli indumenti io li ritengo beni di prima necessità, vengono centellinati purtroppo in tutte le sezioni ormai. Quindi insomma, poi bisognerebbe spiegare a chi invece esalta questo sistema, questo regime, che cosa vuol dire ovviamente per un bambino, o spiegare appunto al bambino che va a trovare il proprio genitore che il papà lo puoi vedere soltanto da dietro il vetro perché hai 12 anni e un giorno. E queste sono cose che devono essere considerate gravi, secondo me, per tutti. E comunque finisco, perché tanto io tra un po' vado anche via, mi dispiace, però vi lascio una frase che mi ha sempre detto Alfredo, e lui dice sempre: pensare l'impensabile e tentare l'impossibile. Riflettiamoci. Grazie. Sì, su questa questione dell'allargamento del bacino d'utenza c'è quello che credo che sia un lapsus del DAP, però significativo. Quando hanno negato ad Alfredo la visita del secondo medico, adesso che era opera dello specialista, quel giorno vi ricordate, forse qualcuno si ricorderà, è stata fatta una richiesta, allora il DAP ha fatto una circolare dicendo che questa visita non poteva avvenire. Primo motivo, perché Alfredo un medico ce l'aveva già e quindi poco importa che questo si fosse più specializzato. E poi però dice così: pertanto, tenuto conto del fatto che il detenuto è sottoposto al regime di cui al 41 bis dell'ordinamento penitenziario, per recidere ogni contatto con il mondo anarchico, non si ritiene di dover ammettere ulteriore sanitario al fine di non pregiudicare la razza del provvedimento. Cioè il problema non è la sua associazione, il mondo anarchico, che è un pezzo di storia di questo paese, diciamo, cioè è una, non è che uno dice ciao i suoi sodali, diciamo, è un sistema di pensiero, ecco, in qualche modo, no? Adesso una galassia. La galassia, del procuratore generale della Corte di Cassazione, che parla proprio di galassia anarchica. Quando sono andata da Alfredo per parlare con questo, mi ha detto: galassia, siamo diventati mi ha detto addirittura delle stelle, quindi no, cioè nella galassia ci sono le stelle, no, non. Però, vabbè, si inventa, comunque i termini, l'italiano è bello perché effettivamente ha tanti termini e ognuno li utilizza come vuole, però insomma i significati bisognerebbe valutarli bene. Adesso tu devi andare tra pochissimo, sì. Giusto? Quindi noi, ecco, direi, facciamo, poi volevamo leggere l'ultima dichiarazione di Alfredo che ha fatto adesso all'udienza di riesame a Perugia, però forse ci sono delle domande, meglio farle prima che uno vada via. La domanda l'ha fatta prima. Non faccio male. Io faccio una domanda qua. Sì, però se vuoi venire qua, perché abbiamo tutto la. Non sono pericolosa, ancora non sono pericolosa. Qua sto anche in piedi. No, ne avevamo parlato anche con altri compagni e compagne del collettivo che si occupa, Olga, quello che si occupa di corrispondenza. E volevamo approfittare proprio del fatto che, col fatto che i detenuti in 41 B sono completamente separati dal resto della società, gli avvocati hanno comunque modo di avere, di poter colloquiare con più di uno, anche avere un punto di vista complessivo. E quindi noi volevamo capire se c'era qualche ricaduta della lotta di Alfredo all'interno delle persone che hai avuto modo di vedere, sia dal punto di vista del fatto di come le informazioni possono passare, quelle poche che passano, abbiamo visto che alcune cose hanno rotto la barriera dei media mainstream, sono finiti sulla 7, quindi magari anche a loro gli è giunto qualcosa, e poi la difficoltà a poter riportare, quindi discutere di questi termini, perché si è immediatamente imputabili anche lì dal 2009, e quindi con la dovuta attenzione anche di poter condurre questo tipo di dialoghi, quindi anche questo tipo di difficoltà nell'esperire queste informazioni, e comunque che idea, insomma, terrifatta della situazione, ecco. Allora, bella domanda. Quindi, per quanto riguarda le ripercussioni, tra virgolette, ovviamente, nei confronti degli altri detenuti, allora, premetto che il primo momento nel quale Alfredo era al 41 a Bancali era, vabbè, in un gruppo di socialità, l'ho già detto poco fa. Quando poi è stato spostato nell'altro gruppo di socialità, gli altri tre detenuti sono tutti e tre i miei assistiti. Quindi in realtà loro sapevano ovviamente cosa era successo, e sono anche due o tre di loro, anzi tutti e tre, sono stati citati più volte anche nei giornali, perché è stato detto, insomma, che addirittura lui fosse il loro strumento, no? Quando evidentemente si tratta, come ho già detto, di due persone che stanno, due di loro sono dal 1993 detenuti in regime 41, non hanno nessuno, non sono di quelli che comunque collaborerebbero mai, evidentemente, a parte tutto, e quindi, insomma, non hanno sicuramente, non dovevano aspettare Alfredo se volevano fare delle manifestazioni, ma non hanno questo assolutamente. E l'altro invece lo stesso, un ragazzo molto più giovane, forse coetaneo di Alfredo, che comunque non ha, ha soltanto più volte, ovviamente i due più anziani hanno cercato, insomma, di dirgli che forse era meglio di no, di evitare, perché comunque l'avrebbero fatto morire. Nel senso che la lotta è lotta, però qui c'è qualcosa di molto forte. E invece l'altro, quello più giovane, lo incitava, nel senso, lo incoraggiava, diceva: vabbè, se proprio vuoi farlo, mi raccomando, capito? Dando un po' di raccomandazioni in quel senso. E questo è quello che è uscito. A fronte di questo io ho fatto anche una richiesta formale, proprio perché sono stati messi in mezzo, sono stati citati. Ce lo troviamo all'interno del nuovo decreto di proroga per loro del 41, questo fatto, e quindi ho chiesto di avere appunto le registrazioni come avevano chiesto, e quindi per le discussioni che sono state appunto nelle varie interrogazioni parlamentari non mi sono mai state date, proprio perché io volevo dimostrare che si trattava evidentemente di colloqui anche normali che possono avvenire tra i detenuti, questo, perché sembrava che si configurasse anche una sorta di ipotesi di reato, quindi insomma io volevo tutelare un po' tutti, avendo tutti con me, da me assistiti. In realtà la stanno seguendo molto questo fatto. Solo una persona ha iniziato, vabbè, lo sciopero della fame, però per ragioni sue personali, e comunque lo sta facendo anche lui, e stiamo parlando già dal 28 di febbraio del 2022, del 2023, ma non ne parla nessuno. Noi l'altro giorno l'abbiamo di nuovo manifestato, anche il magistrato ci ha detto vabbè, lo vuole fare lui, e quindi questo è. E questo è, gli altri difficilmente penso che inizieranno una cosa del genere, anche se qualcuno aveva iniziato a ipotizzare comunque quantomeno lo sciopero del carrello, il cosiddetto vito dell'alimentazione, dell'amministrazione, però ancora non è iniziato neanche questo. E poi niente, qualcun altro che è in AS invece ha iniziato lo stesso, almeno appunto allo sciopero del carrello. Lo stanno seguendo assolutamente, anche molto, molto, cioè molto contenti di questo fatto. e anche consapevoli forse del fatto che si tratta di una situazione diversa. E qui non voglio aprire il discorso delle detenuti di serie A e serie B, perché sembrerebbe poi parlare di questo, però effettivamente in considerazione di quella che è la collocazione, non la collocazione, la qualificazione appunto di Alfredo come detenuto non per quei tipi di reati, è stata fatta una valutazione differente, ma l'abbiamo davanti. Io l'ho detto poco fa, cioè Alfredo è stato poco bene, non male, perché quando era detenuto al 41 bis di Sassari non stava male, non stava bene tanto quanto, e non avrebbe avuto probabilmente, anzi sicuramente, le attenzioni di adesso dal punto di vista sanitario, ma al 41 di Sassari fino a due mesi fa, a parte altri che ci sono che stanno proprio male e tutto, c'è stato un signore che adesso sta appunto a opera ed è paralizzato ormai le gambe. Quindi se per lui prendi e trasferisci, cioè Alfredo l'hai trasferito subito, i detenuti che hanno quei tipi di reati non li hai trasferiti e non li stai curando. Brutto, io non sto facendo due distinzioni, però vi voglio mettere anche questo di problema. Loro sono assolutamente molto, tra virgolette, solidari, perché poi anche il termine solidare sembrerebbe una cosa, un reato, quindi diciamo che tifano, il tifo ancora è lecito, come lo sport, tifano per Alfredo, però hanno una grande preoccupazione per lui, perché lo Stato Alfredo non chiede per compromessi, ecco, non pensate che io sto dicendo una cosa del genere, però lo Stato non cede a compromessi assolutamente, però non applica quelle che sono le norme, perché se Alfredo a questo punto, abbiamo ritenuto opportuno qui quando è appunto stato trasferito qua, chiedere la detenzione domiciliare speciale per gravi motivi di salute, vuol dire che le problematiche ci sono, ed è inutile che poi noi sappiamo che ci sono i problemi di salute, che si è aggravato e anche parecchio, invece poi ci sia una relazione che dice è compatibile col regime carcerario, anzi finché sta lì forse sta meglio. Non funziona così, funziona che se io esco e vado a curarmi dove magari voglio io, con l'affetto vicini e con l'affetto ovviamente alla famiglia vicino e con la tempistica comunque che dico io, è un conto. Se invece mi devi curare tu solo e esclusivamente perché ritieni che io sia pericoloso, insomma. E poi vi dico anche un'altra cosa, dal 1993 ad oggi, gli ultimi 20 anni, ma facciamo anche solo gli ultimi 10 anni, i reati per i quali sono stati condannati e sono ancora al 41 bis questi signori non ci sono più, o meglio, non è che non ci sono, i reati esistono ancora, ma non è più successo niente, eppure l'emergenza risulta sempre emergenza, e il 41 non viene mai attenuato né attutito. Quindi la pericolosità una volta è come un marchio, è brutto da dire, hai quel marchio di fabbrica, sei un 41 bis, sei pericoloso, la pericolosità ti rimane, una P, insomma. Non so se sono... Si è capito bene. È difficile, troppo politicizzare. Sì. Ci sono altre... Se no... Al volo. Vai. Allora leggo. Allora leggo, perché... grazie. Intanto ci salutiamo. Questo testo non è così lungo. Lo leggo perché è un bel testo. In più, diciamo che questa cosa è iniziata con Alfredo in questo regime che gli era applicato perché non potesse comunicare con l'esterno. In realtà, almeno in questi sprazzi, riesce a comunicare più di moltissimi altri, anche non detenuti. Quindi, diciamo, approfittiamo. Questa è la dichiarazione che Alfredo ha fatto all'udienza di riesame per le misure cautelari dell'operazione Sibiglia. Innanzitutto, volevo iniziare con una citazione del mio istigatore. Il nostro ordinamento ha introdotto quella figura di isolamento mortuario che è il 41 bis e che per certi aspetti è più incivile anche di questa mutilazione farmacologica. Questo per dire che il nostro sistema non brilla di civiltà. Firmato Carlo Nordio, 28 marzo 2019.